Destinazione Natale a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo che hai sempre desiderato tra le oltre 160 boutique delle firme più prestigiose, con sconti fino al 70%. Vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet. Salve amici di archeologia via video ludica. L'altro giorno stavo giocando a Contra e non riuscivo a passare un livello, non mi ricordo se era il quarto o il quinto. Ma ci avete fatto caso che i giochi vecchi, chiamiamoli vecchi, paradossalmente erano un po' più complicati dei giochi contemporanei? Saluti. Carissimi amici, benvenuti a questo finale di stagione di Archeologia Videoludica 4x13 a difesa della corona. ...1986... Geoffrey Longsword, Roger Falconbridge, Catherine of Nottingham, il difensore della corona. Chi ha rubato la corona? Vinceranno i Sassoni o i Normanni? Qui, dappertutto, è Commodore Amiga. Benvenuti nel cinema del videogioco. Dalle prime cutscene al correre nella giostra al galoppo, disarcionare il nemico, il guanto di sfida lanciato, una catapulta che sbrecca l'orlo di un castello, l'Inghilterra, i territori conquistati, lo scontro per salvare la donzella, gli interni delle fortezze, i ponti levatoi bagnati dalle fiamme aranciate dei fuochi, le trombe che squillano, lei che ti guarda, un corpo che si avvicina, la prima notte d'amore. Tutto questo è CinemaWare, la maestria di Jim Sachs, programmatore e animatore, la sua rotazione dei colori delle palette, l'effetto acqua e fuoco, il maniacale lavoro frame per frame, l'integrazione fra narrazione e videogioco, i personaggi presentati come un cast. Attraverso una cinematografia del gameplay, Defender of the Crown era il modo nuovo di potenziare l'azione per regalare un'anima più profonda al videogiocato. La prima nobilitazione del videogioco a rango di cinema, forse oltre il cinema, più del cinema. Molto di tutto comincia da qui. Bene, allora, dopo questa fantastica intro che oramai, come avete capito, insomma, e l'abbiamo già detto, diventerà una tradizione di archeologia videoludica, penso sia anche abbastanza chiaro di che cosa andiamo a parlare. Però prima di entrare nell'argomento focale e parlare, insomma, sviscerare di questo fantastico gioco che abbiamo amato tutti noi, perlomeno quelli della nostra generazione, della mia generazione, con chi affronto questo viaggio che in realtà è l'approdo alla conclusione di questa lunga e interessante quarta stagione di archeologia videoludica, che ci sta portando poi tra l'altro nel vivo. Ovviamente con me non poteva mancare il direttore tecnico, il direttore artistico, editoriale di questo programma, Marcus Brodi, anche detto Sam, Roberto Bertoni. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere tornare a questo microfono per registrare archeologia videoludica ed è ancora più un piacere sentire il proprio presentatore che si ricorda veramente con chi sta registrando. Esatto, quell'affetto che c'è dentro. Esatto, tra un po' mi chiamerà Coso, ecco voi Coso dalla Brianza. No, sono, per chi non lo sa, probabilmente lo capirete anche ascoltando l'audio, che non è male, ma magari poteva essere meglio. Ho avuto delle difficoltà, ma questo insomma è tipico dei finali di stagione di PN. Quando si arriva verso giugno e luglio, non si sa perché, praticamente si sbraga tutto e ci costringerà poi ovviamente la prossima stagione a rimediare in qualche maniera. Però è bello anche così. Abbiamo il nostro secondo compagno d'avventura, che abbiamo detto un po' di tempo fa una new entry, ma ormai non è più una new entry, ma è parte integrante dello staff di archeologia videoludica, anche parte integrante importante, facendogli anche gli auguri e buon compleanno, Giuseppe Saso. Grazie pure per questi, buon salve a tutti. Benvenuto Giuseppe, tu sai di cosa parliamo questa sera, vero? Direi di uno dei giochi che hanno definito la mia infanzia videoludica, fondamentalmente. Che quando l'abbiamo visto per la prima volta abbiamo fatto e poi siamo rimasti folgorati. Va bene, però prima di Roberto, giustamente, prima di parlare del gioco in sé, un gioco in sé che tra l'altro ci fa fare un bel salto temporale, perché abbiamo deciso che ogni tanto faremo queste follie assolutamente fuori dal contesto cronologico che di solito abbiamo provato a seguire su archeologia videoludica, ma probabilmente non sarà più uno standard. Abbiamo fatto questo salto temporale e parleremo di un gioco di una software house che però secondo noi va introdotta, e poi magari insomma nella prossima stagione poi ne riparleremo anche per altre ragioni. Quindi parliamo della Cinemaware, e per parlare della Cinemaware che questa Cinemaware, questa sera abbiamo Gianluca Santilio che ce la presenta. Ho cominciato con l'industria dei videogiochi nel 1984. Ero prima un agente, poi ho iniziato con la produzione di titoli sul Commodore 64. Nel 1985 ho messo le mani su un'Amiga di pre-produzione ed ho pensato, ok, questo rivoluzionerà tutto. Questo andrà veramente forte. Così ho passato un anno a Salt Lake City, incontrando dottori e dentisti per cercare finanziamenti per creare una serie di videogiochi per una compagnia che avrei voluto fondare e che avrei chiamato Cinemaware. Ho raccolto qualche milione di dollari ed ho avviato lo sviluppo di alcuni giochi che sono tutti finiti al primo posto delle classifiche per i computer a 16-bit. Queste sono le parole di Bob Jacob, che assieme a suo fratello Phyllis fondò questa storica ed indimenticabile software house. È stata il simbolo di almeno metà della vita dell'Amiga, il che è quantomeno sorprendente considerando che si tratta di una compagnia americana e che le performance del computer Commodore negli Stati Uniti sono state parecchio deludenti. Ma la Cinemaware inseguiva un sogno e pazienza se il grosso dei soldi era costretta a recuperarli dalle conversioni per Commodore 64. Come il suo stesso nome tradiva, l'obiettivo era avvicinare i giochi al cinema, un qualcosa di difficile da ottenere senza la potenza grafica che il nuovo gioiello Commodore permetteva, ma tutto senza ignorare le meccaniche arcade che gli stessi Jacob adoravano. Esse dovevano essere il collante tra una scena e l'altra, e a dare manforte arrivò presto uno straordinario grafico chiamato Jim Sachs. Defender of the Crown, pubblicato nel 1986, fu uno shock per gli appassionati di poemi cavalleresche e storie bretoni, che mai avrebbero pensato di trovarsi di fronte a qualcosa di così evocativo, considerando le così involute atmosfere contemporanee di giochi pur popolarissimi come King's Quest. Ma più informazioni, cari ascoltatori, le scoprirete più avanti. Solo pochi mesi dopo arrivò SDI, che passa alla fantascienza, raccontando una guerra fredda che non sembra finire, protraendosi fino al remoto futuro dove le stazioni spaziali sono diventate cruciali per la protezione dei propri paesi. Irrompe la grafica poligonale nella storia della Cinemaware, che permette scontri volanti ed emozionanti, messo sullo sfondo che si consuma una struggente storia d'amore fra un comandante americano e l'affascinante Natalia, a capo della stazione russa. Poco più tardi è il turno della mafia con King of Chicago, che ci mette al fianco di Al Capone nel tentativo di sottomettere la città al nostro potere mafioso. Il gioco è dominato da dialoghi e attività iconici della criminalità italo-americana dispensata dal cinema, e non mancheranno sparatori, atti intimidatori e politici da corrompere. La giusta conduzione dei dialoghi è una delle peculiarità più importanti di King of Chicago. Sinbad and the Throne of the Falcon ci porta nelle atmosfere di Mille e una Notte, spingendoci nel fantasy ma anche in uno dei prodotti meno amati della Cinemaware, che propone ancora una volta una mappa da esplorare e da salvare dal principe oscuro. Anche stavolta ci saranno sequenze arcade a scandire il nostro progresso, ma senza molto esaltare i giocatori, delusi anche da una grafica meno appassionante di quanto mostrato in passato. The Three Stooges segna l'unico sfruttamento di una licenza da parte della Cinemaware, nella fattispecie quella di uno show comico televisivo noto in Italia come I Tre Marmittoni. Anche questa volta il consenso di critiche e giocatori non è eccellente, a causa di un gameplay molto ripetitivo. L'obiettivo è raccogliere $5,000 per salvare un orfano trofeo dalla chiusura, e per riuscirci i tre protagonisti dovranno superare dei minigiochi spesso basati su episodi visti in TV. Le vendite, tuttavia, furono molto positive. Il grande successo ritorna nel 1988 con Rocket Ranger, ispirato a figure dei fumetti americani che raccontavano di uomini con un razzo sulle spalle alla difesa del mondo, messo in pericolo dai tedeschi che stanno estraendo dalla Luna il cosiddetto Lunarium, che abbassa l'intelligenza degli uomini. Bisogna combattere i nazisti, spesso sorcando i cieli e abbattendo ogni sorta di velivoli, compreso uno spettacolare Zeppelin che influenzerà persino il film hollywoodiano di The Rocketeer. È presente anche una parte strategica, in cui fornire indicazioni ad agenti segreti, e l'obiettivo finale sarà raggiungere la Luna senza farsi mancare gli alieni. Per alcuni appartiene ai migliori giochi dell'era 16-bit, ma a tutti è mancata la possibilità di salvare la partita. Lords of Rising Sun compete il tour culturale della Cinemaware facendoci vestire la carismatica armatura di uno shogun, determinato a prendere il controllo dell'intero Giappone. È presente ancora una volta l'immancabile mappa sulla quale spostarci con le nostre truppe, che quando si scontreranno avvieranno un combattimento strategico, mentre in altre fasi ci ritroveremo nuovamente in sequenze arcade, compresa una particolarmente infame in cui neutralizzare un ninja. Nel 1989 è tempo di viaggiare fino a Lizard Breath e fare conoscenza con uno dei giochi più coinvolgenti ed inquietanti della storia 16-bit, It Came From The Desert, e poi la sua espansione Untheads. L'ispirazione arriva dai B-movie degli anni 50 ed immagina questa cittadina sperduta e da tempo sostenuta da un'attività mineraria che si ritrova improvvisamente alle prese con formiche mutanti. Mutazioni che strisciano fino alla genetica degli abitanti, che cominceranno a comportarsi sempre più stranamente, per poi trasformarsi ed attaccare il nostro avatar. Mentre tutto sembra connivente e contro di noi, bisogna cercare l'origine di questo male e distruggerla. Ad oggi, ancora uno dei momenti più intensi del videogaming, ed un gioco fortemente nel cuore degli appassionati Cinemaware. Anche Wings è stato uno straordinario successo. Siamo un pilota alleato della Prima Guerra Mondiale, questa volta, col compito di fornire supporto decisivo nella storia del conflitto, al quale potremo appassionarci leggendo le pagine del nostro diario tra una missione e l'altra. Ve ne sono ben 200 e sono strutturate in tre modi diversi. Il più comune è in 3D, con una insolita inquadratura da dietro la testa del pilota che ci mostrerà la sua sciarpa al vento, mentre infurierà un classico dogfighting. Poi abbiamo una fase di visuale isometrica in cui bisognerà mitragliare obiettivi a terra, solitamente sono inseguimenti di convogli. La terza, ed ultima, è perfettamente dall'alto e richiederà dei bombardamenti e di evitare la contraerea. La Cinemaware ha negli anni tentato anche la via sportiva con la serie TV Sports, cercando di aggiungere alle partite la capacità di presentarle bene, introducendo commentatori e sequenze per enfatizzarle. Le uscite di football e basketball furono accolte ottimamente, presentando un approccio fortemente innovativo a questi sport ed approfittando di una concorrenza ancora sottosviluppata sui computer, non riuscendo tuttavia a proporre un gameplay in grado di invecchiare bene. Arriveranno anche baseball e boxing, mediocre il primo e piuttosto buono il secondo, ma tardando moltissimo sul mercato a causa dei problemi della Cinemaware e trovando la pubblicazione solo tramite altri publisher. Molte scelte sbagliate e fattori di mercato segnarono un rapido declino della compagnia, che chiuse i suoi studi nel 1991. La pirateria dilagava e la Cinemaware mosse i suoi investimenti sulla tecnologia CD-ROM, sviluppando su CD-TV e CD-i, senza recuperare minimamente le spese, inconsapevole che il nuovo supporto non avrebbe decollato fino alla generazione successiva. I fratelli Jacob decisero allora di entrare in una partnership con la NEC, che ne prelevò il 20%, sperando di agevolare le vendite del suo TurboGrafx CD, ma l'adattamento per la piattaforma di It Came From The Desert è il perfetto specchio di una mossa disastrosa. La Cinemaware è stata nuovamente avviata nel 2005, ma era chiaro come nulla più sarebbe stato come prima. Grazie Gianluca. Beh, sì, in effetti Cinemaware, che già di per sé è un nome, non solo un nome, una garanzia, ma è un nome che di suo Roberto dice già qualcosa, perché come ha detto anche Gianluca, ovviamente c'era una sorta di intenzione alla base del nome, e in effetti per quelli come me, questo poi lo diremo anche nella puntata finale di stagione di Calavera, che non è quella che sta per uscire adesso, ma ce ne sarà anche un'altra addirittura, pensate quanto siamo scatenati. Il concetto di cinema, narrativa e con videogioco è sempre stata una cosa che non so per quale ragione ce l'avevo nel cervello, e qualcuno poi ci ha iniziato a lavorare sopra. Roberto sa, la Cinemaware è una di quelle case che magari non ha creato super gioconi, magari non ha creato super storione, ma sicuramente ha, grazie poi ai nuovi computer a 8-16 bit che cominciano ad avere un certo tipo di grafica, ci hanno portato un po' di estetica, insomma, cinematografica. Beh, diciamo che sicuramente Sinaware, o come piace chiamarla a me, Cementalware, così almeno i nostri ascoltatori sono contenti. Per rendere più facile tutto al conduttore disgraziato. Esatto, e è stata una software house che personalmente ha segnato in maniera profonda il cammino, comunque la carriera videoludica di tutti gli appassionati Amiga, in quanto questa macchina è stata da loro veramente sfruttata a pieno dal punto di vista tecnologico, tecnico, per i loro prodotti, ed è stata un po' una software house simbolo. Adesso, se vogliamo fare paragoni più recenti, è un po' come Square Enix per Sony, cioè nel senso proprio un legame profondo fra software house e macchina, che ha creato dei prodotti che effettivamente magari in alcuni casi non indimenticabili, anzi, però come il titolo di oggi, possiamo dire nel titolo, sì, vero? Possiamo, beh sì, penso possiamo cominciare a dirlo, sì. Ok, quindi... anche perché poi a difesa della corona c'è poco da dire, insomma. Esatto, quindi stiamo parlando di Wings. No, io pensavo di It Came From A Desert. Esatto, beh, no, quello smerita un capitolo suo. Mi sa di no, sì. Parliamo di Defender of the Crown. Crown, e quindi veramente un capolavoro dal punto di vista del film interattivo, che era appunto la promessa in cui si era presentato al pubblico nel lontano 1986. Quindi stiamo parlando di un gioco comunque, sì, che ha sulle spalle diverse decadi, e che, e poi arriviamo a parlare anche più avanti, comunque ne è proposto ancora oggi, quindi probabilmente qualcosa di buono anche dal punto di vista del gameplay c'era sicuramente, al di là dell'effetto nostalgia che comunque avvolge questi titoli. È una software house importante, una software house che ha voluto portare qualcosa di diverso, qualcosa di interattivo, ma anche ricordarsi qualcosa del cinema, sacrificando talvolta anche il gameplay, e questo è purtroppo o per fortuna anche uno di questi casi, ed è una software house che è stata in grado di segnare un'epoca facendo scuola su diversi aspetti. Poi hai già sentito Gianluca, che ha sicuramente approfondito, ha fatto una carrellata veloce anche dei maggiori titoli e di quella che è stata un po' la reazione sul mercato, e anche del perché e per come questa casa purtroppo ha vissuto, dopo un primo momento di gloria, una caduta abbastanza repentina. Però diciamo che se vogliamo risalire gli albori, quando il cinema è entrato veramente nel videogioco, Defender of the Crown e in generale Sinaware sono pietre miliari quando ricordate, questo sicuramente. Bene, prima di arrivare poi, vabbè, in realtà poi potremmo fare un attimo anche un ulteriore... vabbè, in realtà poi già forse l'abbiamo fatto anche tramite Gianluca, perché poi Sinaware, come dicevi anche tu, ci ha avuto una fase storica anche abbastanza altalenante, comunque un momento di splendore, poi chiaramente un declino, anche una rinascita che poi ha riportato, insomma, anche tramite All Games Italia abbiamo visto la riapertura del sito, la riproposizione di alcuni vecchi titoli anche per iOS. Però vabbè, senza concentrarci troppo magari su Sinaware, non so se Roberto poi vuole dire qualcosa, vorrei anche passare un attimo al primo approccio, così la prima sensazione riguardo proprio Sinaware per noi che l'abbiamo giocata, per esempio andando verso Peppe, perché sì, è vero che Defender of the Crown, che è ovviamente il titolo che stiamo per andare a affrontare, è stato probabilmente il capostipite, però è vero pure che insomma ci sono stati dei titoli che insomma come software house ha significato qualcosa per noi, per dell'era Amiga perlomeno. Peppe. Sì, devo dire che giochi Sinaware erano riconoscibili sin da subito, perché comunque avevano sempre quella famosa struttura appunto a film, perché una cosa delle cose che mi ha sempre spiazzato ed era appunto uno dei delle feature, delle caratteristiche chiave che non trovavi in tutti gli altri giochi, era quella appunto struttura filmica. Se ti ricordi, i giochi film, sai, Sinaware avevano un incipit proprio, una bella anche solitamente lunga presentazione, poi c'era tutto il fulcro del gioco che più o meno alternava diverse fasi più o meno action, e con una storia proprio che andava avanti, poi poteva ovviamente arrestarsi prematuramente se non eri abbastanza bravo comunque le prime volte che giocavi a quel titolo, e poi quando finiva il gioco, cioè la storia era finita lì, dovevi proprio addirittura, se vi ricordate come era appunto anche in Defender of the Crown, riavviare la macchina resettare, non c'era tipo il continua o il rifallo, o ti riportava proprio la schermata del menu, dovevi proprio riavviare la macchina perché il gioco rimaneva fermo proprio nella schermata finale. Sì, del landing buona o brutta che fosse. Che poi voglio dire, nel senso, i giochi della Cinemaware erano un po' dei così a memoria, perché ovviamente stiamo parlando di cose alle quali io ero molto affezionato, però i giochi della Cinemaware erano poi alla fine dei grandi mistoni, no? A volte dei strategici, a volte un po' di qua, un po' dell'azza, ma poi alla fine diciamo, se parliamo proprio del puro gameplay, probabilmente non parliamo di grosse pietre miliari, no? Però se parliamo ovviamente dell'impatto grafico, estetico e sì, dell'esperienza, esatto, interattiva, sì, assolutamente. Poi se posso, vai. Giusto per il discorso interattivo, sì. Secondo me è uno dei punti, diciamo, che è stati più deboli in tutto quello che è stata la politica di Cinemaware, ne parlavo un po' prima nel fuori onda io e Giuseppe, era la scarsa intuitività del gameplay. E questo, sì, diciamo che per un videogioco che in qualche modo tentava un approccio cinematografico, è stato un grosso limite. In quanto, innanzitutto, scusami se ti interrompo, era a riprova di questo, era proprio il fatto che, se ti ricordi, specialmente per chi, almeno parlo ovviamente facendo outing, li aveva piratati, no? Quindi non aveva accesso a tutto il contenuto di supporto, quindi il manuale, eccetera. Tu non sapevi effettivamente nelle varie fasi di gioco cosa dovevi fare, a meno che appunto non sperimentavi o appunto l'avevi originale, quindi nel manuale più o meno veniva spiegato il da farsi, no? Il che ovviamente si traduceva sempre in critici fallimenti all'inizio, no? No, chiaro, però tipo, anche se poi dopo, per esempio, un gioco come Defender of the Ground, per esempio, dopo che avevi capito il meccanismo, era un gioco che lo finivi, lo potevi finire un'ora, sì, cioè. Ma anche di meno. Comunque questo lo parleremo, certo, dopo. Dicevi, che, Roberto? Che appunto, se prendi un, adesso c'è un paragone dei tempi moderni, Walking Dead, anche se, sì, senza manuale, tu inizi a giocare, capisci subito come muoverti, cosa fare. Un giochi Cinemaware, anzi, tutt'altro. Ad esempio, Defender the Clone, che poi andiamo a approfondire meglio. Ha la possibilità di stabilire tre livelli di difficoltà, perfetto. Però già a livello base all'inizio poteva essere spiazzante anche per, diciamo, alcune scorrettezze del computer o dell'avversario. Anche la sola scelta di quale personaggio, di quale vassallo interpretare era abbastanza spiazzante, anche perché tu magari all'inizio guardavi queste statistiche associate a quel personaggio e non sapevi effettivamente come, che impatto avevano sul gameplay, se ti ricordi. Esatto, qui. Tipo la leadership, l'abilità quella di giostrare oppure quella di schermidore, no? Esatto, quindi il discorso appunto era un po' due aspetti contrapposti. Da una parte si cercava un film interattivo, un qualcosa che potesse essere veramente godibile dal punto di vista visivo per il giocatore, dall'altro il gameplay era un po' meno intuitivo di quello che ci sarebbe potuto aspettare. Bene, allora aspettate, facciamo un attimo di ordine, così almeno iniziamo veramente a parlare di Defender of the Ground in maniera molto, molto più approfondita. Quindi stiamo parlando di questo gioco che poi in realtà è una sorta di strategico con questi elementi. Sì, diciamo che lo possiamo considerare un risico fantasy relegato solo, esatto, sì, sulla praticamente sulla mappa, costruzione della nazione Inghilterra, sì, e l'unificazione sotto un'unica corona. E per capire un po', insomma, di che tipo di impatto c'è stato quando praticamente è stato pubblicato questo videogioco e quindi praticamente quando la Cinemaware è salita alla ribalta, ci ascoltiamo quella che anche questa diventerà un'altra tradizione, insomma, di archeologia videoludica, la retro rassegna stampa di Morgan, che ci parla proprio di come la stampa ha accolto Cinemaware e soprattutto Defender of the Clone. Un caro saluto da Morgan e bentornati alla nostra retro rassegna stampa, che in questo episodio si occuperà degli articoli pubblicati dalle riviste del tempo su Defender of the Crown, la testa di ponte della Cinemaware pubblicata nel periodo di declino degli 8-bit e del lancio dei computer a 16-bit. Diamo inizio alla rassegna delle principali riviste italiane con la recensione pubblicata su Zap di marzo 87, che titola su quattro colonne Lo spettacolo a 16 bit, test 68.000. Si tratta infatti della recensione della prima versione pubblicata per Amiga dal voto globale 89% che minaccia: Hollywood sta per entrare seriamente nel vostro computer. È la nuova generazione dei videogiochi. Superato lo stupore per la grafica, vi assicuriamo che vi divertirete molto. Utilizzate al massimo la vostra abilità tattica nel muovere le truppe e nell'investire i soldi. Il gioco diventa ancora più interessante se impersonate ogni volta un cavaliere diverso. In questo modo dovrete anche modificare la strategia in base alle sue abilità. Fa riferimento alla versione per Amiga della recensione pubblicata il mese precedente, quella sempre su Zap ma di aprile 87, relativa al Commodore 64. Si tratta infatti di un gioco caldo. Molti di voi avranno visto le schermate di questo gioco sull'Amiga e avranno pensato: come sarà la versione per 64? La risposta è ottima. Defender of the Crown si gioca un po' come i classici giochi da tavolo, tipo Risico. Tremendo quando si perde, ma stupendo quando si vince, benché sia abbastanza semplice da giocare e sufficientemente buono da meritarne l'acquisto. Ma se a questo aggiungiamo la migliore grafica statica che abbiate mai visto su un Commodore 64, ecco che avete un titolo da acquistare. Rimanendo in campo italiano, la rivista K, febbraio 89, recensione della versione PC. In un periodo in cui il PC era dotato o di schede EGA 16 colori o CGA 4 colori, recita: classico gioco di strategia dinamica medievale, bello in EGA ma deludente in modo CGA. La mancanza di controllo col mouse è un duro deterrente durante le sequenze di azione, che sono comandate o col joystick o con i tasti cursore. Tutto sommato è troppo costoso. Il K-voto è 567. Ancora Game Power, numero 2 di gennaio 92, pubblica la recensione per la versione NES e dice: il gioco è vario e divertente, ma a lungo andare diventa inevitabilmente ripetitivo. Eppure c'è qualcosa di affascinante nel ritrovarsi ogni volta davanti alla familiare mappa dell'Inghilterra. Forse è una questione di atmosfera, o forse solo il vostro recensore, che è vecchio e rimbambito, riesce solo a vivere nei propri ricordi. Voto 75%. Ma vediamo invece cosa dicono le riviste internazionali riguardo questo gioco, sempre nella versione Commodore 64. Computer Gaming World gli dà un voto di 50 e dice: con duelli alla spada, tornei e assalti, gli elementi principali sono presenti. La simulazione riunisce alcune scene arcade e miscela tutto in un gioco da tavolo. Mentre All Game Guide, che gli attribuisce lo stesso voto di 50, dice: sfortunatamente la parte più importante del gioco, che sono le battaglie, sono quella più scarsa e conferisce molta confusione e frustrazione al gioco. Sempre la versione Commodore 64, ma questa volta su Zap versione inglese, viene gratificata da una recensione su 4 pagine ricca di magnifiche foto e sulla quale campeggia caratteri cubitali la scritta solo versione disco, e nella pagella dice: presentazione 95%. Superba documentazione ed un multiload adeguato si sposa magnificamente con la sequenza dei titoli. Grafica 98%. Probabilmente la migliore grafica statica che avete mai visto su un Commodore 64. Suono 95%. Totale 94%. Un'esperienza che non deve perdere nessun possessore di floppy del Commodore 64. Commodore User di agosto 87, sempre riguardo la versione per Commodore 64, illustra gli aspetti romantici del gioco. Dopo aver salvato la principessa, la gratitudine si trasforma in amore. E parte quindi la migliore scena animata del gioco. La vostra silhouette è inquadrata vicino al camino, quindi vi avvicinate alla donna che avete salvato. Vi avvicinate sempre di più e l'immagine cambia nella donna che vi fa un occhiolino. Un altro cambio di scena e la guardate da dietro mentre le cadono i vestiti. Oh, porca miseria. E l'articolo chiude: vale la pena possedere un disk drive solo per far girare Defender of the Crown. È in effetti il gioco per cui il disk drive del 64 è stato creato. Voto 9. Una piccola parentesi sui trucchi pubblicati dalle riviste del tempo riguardo il gioco. Su Zap italiano viene pubblicato un listato che nella sua prima versione riporta degli errori. Quindi il mese successivo, a maggio 88, vi è un'errata corrige che dice: ecco finalmente una versione perfettamente funzionante di questo listato. Esso vi permetterà di iniziare il gioco con un certo numero di uomini già arruolati. Basterà sostituire punti interrogativi con un numero tra 0 e 255, ma non esagerate, perché cercare di spostarsi con troppi uomini potrebbe far impallare il gioco. Da ST Amiga Format di gennaio 88 apprendiamo che premendo il tasto K Durante il caricamento si può iniziare il gioco con 1024 cavalieri. Un vero decalogo di consigli è quello pubblicato su Ace numero 10, a pagina 91, dove tra l'altro si consiglia di far riferimento alla texture sui mattoni come scala graduata durante gli attacchi con la catapulta. Passiamo ora alle recensioni che riguardano il mondo Amiga. Su CU Amiga di giugno 87, con un voto dell'82%, si afferma: non ci sono molti aspetti in cui Defender of the Crown può essere migliorato. Ha un grande suono, dell'ottima musica, la grafica è sofisticata con effetti speciali e immagini colorate, ma una maggiore difficoltà e un gameplay più profondo l'avrebbero reso l'avventura da giocare per sempre. Facciamo un salto in Australia, dove Steven Gordon, sull'Australian Commodore Review, il numero 2, si lamenta della confezione del gioco e, a fronte di un voto di 96 e di un prezzo di $120 australiani, osserva: anche se sono stato impressionato dalla qualità di questo gioco, non lo sono stato sicuramente dalla confezione. La prima cosa che senti quando prendi la scatola è un rumore di sballottamento. Ci sono due dischi del gioco all'interno della scatola e sono stati gettati lì alla rinfusa. In pratica la scatola è troppo grande per i dischi. Torniamo in Inghilterra con Zap, versione inglese di aprile 91, in cui ci si lamenta dell'eccessiva facilità della versione Amiga rispetto a quella del Commodore 64. E inoltre dice: ci sono stati nel tempo molti tentativi di imitare Defender of the Crown, come ad esempio Iron Lord della Ubisoft, ma nessuno è riuscito a batterlo. Sulla rivista americana Compute di giugno 87 si sottolinea come Defender of the Crown non è un tentativo di una simulazione storica. E mano a mano che lo shock per la meravigliosa grafica inizia a scemare, il gioco sembra sempre meno gradevole. Alla fine il tutto può essere pure considerato divertente, ma si spera che le future produzioni CinemaWare sapranno sposare questa meravigliosa grafica con giochi dalla maggiore rigiocabilità. Defender of the Crown della Mindscape fa un uso totale del potenziale grafico dell'Amiga. In un articolo intitolato PC Cinema, su TGM numero 50, di ottobre 87, si legge: l'assenza di uno schema di colori ricco come quello dell'Amiga non limita la giocabilità. La versione PC è uguale alla originaria versione nel saper creare l'illusione di partecipare a un film. Voto 78%. Su Amiga Format di ottobre 92 viene recensita la versione CD, il voto è molto basso, 48%, infatti poteva essere considerato un classico 4 anni fa, ma non ha superato bene il test del tempo, semplicemente perché il gameplay è molto labile. La versione per CD 32 della Commodore prende invece il nome di Defender of the Crown 2, anche se in effetti si tratta dello stesso gioco. Infatti sulla rivista Amiga CD 32 Gamer di febbraio 95, in una recensione arricchita da meravigliose fotografie, la presentazione è indubbiamente eccellente. Le numerose schermate sono dipinte in un modo eccezionale ed evocano benissimo il romantico periodo ispirato dal gioco. Voto 78%. Un accenno molto rapido lo facciamo sullo speciale pubblicato sulla recente rivista Retro Gamer, il numero 118, dedicato interamente al gioco. Inoltre, sullo stesso numero si parla di una versione per Intellivision che è in produzione per mano di un certo Arnold Chevalier. Nell'articolo si dice: è difficile immaginare come un gioco creato per il più potente computer disponibile nell'85 possa essere stato ridotto per la più potente console disponibile nel 1980. Eppure tutte le schermate sono presenti e in più le musiche e il gameplay sono presi dalla migliore versione, ovvero quella per il Commodore 64. E chiudiamo così questo secondo appuntamento con la retrorassegna stampa videoludica, ricordandovi che le scansioni delle riviste che sono citate in questo episodio si trovano linkate nelle note dell'episodio. Un saluto a tutti da Morgan. Allora, insomma, credo che anche questo, soprattutto a livello di stampa internazionale, una cosa che penso che abbiamo capito è che Defender of the Crown è un gioco della metà degli anni Ottanta, che se noi consideriamo, insomma, anche l'impatto grafico, visivo, di cui poi ovviamente parleremo, anche io invece vorrei soffermare su questa cosa, perché penso che a livello di esperienza personale sia la cosa che ancora oggi, cioè, io ho veramente chiaro in, cioè, stampato nella retina. Insomma, è un gioco che nasce anche per il 64 nelle macchine 8-bit, perché erano ancora in voga, Roberto, insomma. Quindi facciamo un attimo un un cronistoria, insomma, di questo gioco, introduciamolo anche come, come nascita, come tipologia e soprattutto insomma per che cosa è, lo abbiamo potuto giocare in maniera massiva. Allora, come ho detto poc'anzi, il gioco è del 1986, quindi sostanzialmente, se la memoria non mi inganna e anche i miei calcoli matematici non lo fanno, stiamo parlando di 28 anni fa, quindi sicuramente un titolo con una certa esperienza alle spalle. L'anno 2. E la versione originale, esatto, più o meno siamo lì, di mia moglie per essere precisi. E la versione originale era per Amiga e per Apple II, sì. Però consideriamo come, diciamo, centrale e indimenticabile quella proprio per Amiga, e come ricordava anche Giuseppe, così gli rubo un altro pezzettino che mi ha confiato prima la puntata, e giustamente era ricordata spesso nella pubblicità dell'Amiga 1000, quindi comunque ai tempi era sì in molti dépliant, o se vi ricordate pubblicità proprio del Commodore Amiga, quando, se vi ricordate, in queste pubblicità era presente comunque una foto di tutto il computer con tanto di monitor, c'era solitamente riportato nella schermata del monitor, in particolare la fase quella di assedio al castello con le catapulte. Beh, e c'è perché, sì, esatto, era una delle più belle, quella, e a volte l'altra, quella del diciamo che introduceva, faceva da preambolo alla giostra, se vi ricordate, quello con i famosi suonatori di tromba allineati. E quindi comunque, diciamo, uno dei quei casi in cui un gioco si identifica con la piattaforma. Successivamente, sì, nell'87 ci sono altre versioni: DOS, NES, Atari, Commodore 64 e Apple 2GS, che diciamo sono delle versioni che potrebbero essere dimenticabili, ma che comunque hanno una loro importanza storica, perché, e parlo qui soprattutto per le versioni DOS e Nintendo NES, pessime dal punto di vista grafico, se per Amiga appunto era stata una rivoluzione, un vero simbolo della magnificenza tecnologica, le versioni DOS e Nintendo sono veramente, non dico la pelle d'oca, ma quasi. Di contro, e qua poi ci arriviamo magari un po' più avanti, contengono alcune caratteristiche, alcune features che non sono state previste erano state previste ma non implementate nella versione Amiga. Sì, perché questo, scusami se mi intrometto sempre, il problema fondamentalmente di fondo della versione Amiga qual era? Che quando avevano optato per lanciare questo gioco, fondamentalmente era ancora nel periodo in cui come computer Commodore Amiga c'era solo l'Amiga 1000. Da lì, stiamo parlando di luglio del 86, stava per uscire, perché era già stata, insomma, si sapeva che Commodore era al lavoro sull'Amiga 500, solo che ovviamente non avevano ancora pronti i dev kit su cui lavorare. E loro però avevano, diciamo, da accordi con i publisher di allora, fondamentalmente dovevano comunque rispettare la consegna che era stata fissata per ottobre dello stesso anno, quindi avevano 3 mesi e mezzo di tempo scarsi per venire fuori con una versione ovviamente funzionante e più o meno priva di bug. Sì, poi diciamo che a questo corredo c'era anche un discorso monetario, nel senso che i fondi non erano così elevati per poter, diciamo, fare un beta testing o comunque uno sviluppo approfondito con tutto quello che volevano mettere. Diciamo, se vogliamo, una situazione analoga magari a diversi titoli anche in tempi recenti, dove gli sviluppatori dicono sempre: guarda, avrei dovuto mettere XYZ, non l'ho messo che non avevo tempo, non riuscivano, non ho soldi. In realtà è abbastanza particolare, appunto, perché con le versioni successive venivano introdotte delle migliorie che non sempre nel tempo moderno accade, quindi diciamo uno sviluppo particolare che comunque rende importanti praticamente tutte le versioni di questo gioco, e quindi in qualche modo denota un'importanza storica anche nelle versioni successive. No, che poi vabbè, al di là degli elementi che anche per ragioni finanziarie sono stati inseriti o non inseriti, o che magari erano previsti, o che comunque magari avrebbero aggiunto sicuramente anche una certa spessore, una certa profondità, c'è da dire che è stato sicuramente un successo come gioco, tanto da appunto richiedere tutti questi porting ovviamente nelle varie altre piattaforme, con diciamo così fortune alterne, perché insomma, se andiamo a vedere per esempio la versione dello ZX Spectrum, di pure Simone, con, anche con pesanti ritocchi grafici. Beh, no? Cioè, per esempio, allora la versione dello Spectrum, addirittura la parte delle scene più belle neanche ci stanno. Sono delle scene, quelle proprio necessarie e funzionali, e addirittura le scene di combattimento insomma sono veramente ridicole. Altre versioni invece, che comunque più o meno sono riuscite a stare al passo. Interessante invece era la versione del 64, e tra l'altro c'aveva anche qualche animazioncina in più. La cosa interessante ancora è vedere che comunque loro avevano queste features, queste animazioni predefinite, precalcolate, cioè nel senso le avevano già comunque lavorate, e nelle varie versioni dei vari giochi se le sono sempre rigiocate praticamente in varie maniere. Addirittura quello che vabbè, poi dopo magari ci arriviamo, insomma, perché poi ovviamente sono state fatte anche ulteriori versioni che utilizzavano ancora meglio da un punto di vista estetico determinate animazioni, che però erano già comunque sempre le stesse, che venivano rigiocate in una maniera diversa. Comunque, detto questo, prima di insomma di andare nel resto, perché qui insomma si è andato un po' a somperella questa sera, perché tutti quanti a vaccarella. Questa è una puntata un po' a cazzarella. Parliamo un attimo dell'Amiga 500. L'Amiga 500 è un computer del quale ovviamente ancora non abbiamo non siamo ancora arrivati, proprio perché siamo ancora allo Spectrum e ancora non siamo al 64, però una cosa la possiamo dire, che la differenza tra il Commodore 64 e l'Amiga era il fatto che l'Amiga utilizzava il doppio dei colori del Commodore 64, ossia 32 anziché 16, ma mentre che il Commodore 64 usava 16 colori su 16, che quelli erano, il Commodore Amiga usava 32 colori su x mila colori, e quindi praticamente quando loro hanno disegnato queste scene, tipo, che ne so, la scena panoramica del castello dietro le fronde degli alberi, la scena appunto dell'assedio, la scena della stanza con la principessa, loro hanno potuto utilizzare ovviamente una palette di colori sì di 32, ma di 32 su n mila colori appunto, e quindi l'impatto dal punto di vista estetico era indiscutibilmente grandioso. Aggiungiamoci anche il fatto che c'è stata veramente un'arte dietro, perché era veramente il saper dipingere con 30, cioè questi con 32 colori hanno fatto dei miracoli, cioè io veramente questo, insomma, Roberto, non so se vogliamo aggiungere un attimo questo e poi parlare anche del gameplay. Assumendo la parte tecnica, magari approfondiamo più avanti e presentiamo anche magari Jim Sachs, che è veramente uno dei manici, passatemi il termine, che stanno dietro un po' alla Cineware, alle Final Crown e a tanta grafica e tecnica del mondo Amiga, quindi sicuramente un discorso importante. Considerate anche che il tipo di animazioni che tu citavi è alla base anche di animazioni che sono adesso lo standard MPEG, quindi potete capire che comunque le influenze dall'86 in avanti sono state importanti, e quindi veramente si può considerare questo gioco come una pietra miliare sia videoludica che tecnica. Perché la domanda che ti volevo fare io, poi appunto partiamo dal gameplay, è: diciamo che la Cinemaware ha praticamente forse dato parecchio della sua fortuna proprio da un punto di vista tecnico piuttosto che da un punto di vista ludico, cioè così, proprio come domanda, poi dopo ci ritorniamo ovviamente, però così a sensazione, perché queste sono tutte cose che ovviamente a me sono sempre rimaste impresse da quando ero ragazzino, quindi... Sì, io penso di poter condividere al 100% la tua affermazione, nel senso che, come ho detto anche prima, dal punto di vista del gameplay non sono così indimenticabili, anzi avevano qualche idea interessante, alcune idee vengono riprese anche in titoli successivi, però non era così intuitivo, così coinvolgente come altri titoli contemporanei. Dal punto di vista grafico, e qua parlo soprattutto dal punto di vista dell'Amiga, però è stato veramente un punto di svolta per la capacità di creare qualcosa che prima difficilmente si sarebbe visto e difficilmente ripetibile, soprattutto nel breve periodo. E infatti Cinemaware ebbe un grandissimo successo in quegli anni per la qualità dei suoi titoli. Purtroppo, quando venne raggiunta dal punto di vista tecnico, perse diversi colpi anche per scelte magari infelici dal punto di vista commerciale, però in qualche modo non ebbe lo stesso impatto sul mercato, e quindi poi le vicissitudini che poi ci racconta anche Gianluca. Ok, allora il gameplay di Defender è, cioè, questo qui tu l'hai definito, o lo possiamo definire, un'avventura cappa e spada. Così è in realtà poi il discorso dal punto di vista narrativo, ma il gioco è tutt'altro, insomma, no? Sì, allora, il gioco è sicuramente inquadrabile all'interno dei strategici. Al 100%, come Santa Parabia, per capirsi, insomma. Bravissimo, un altro dei nostri pietri miliardi di archeologia video. Esatto. Tra l'altro volevi dare qua in anteprima. Io ho giocato, tra l'altro, da quando l'abbiamo, io l'ho giocato, quindi ci sono proprio messo, pure di santa ragione, insomma. Ecco, lo dirvi in anteprima che stiamo preparando un video sulla versione per binatone di Defender, quindi preparatevi che presto. Ma non è vero. Lasceremo. Che cazzo dici? Ecco, qua veramente un po' la mia credibilità viene smontata, però cercherò di andare avanti comunque, anche perché è il compleanno di Sasa, mi sembra giusto festeggiarlo. Il regalo della Mofalli, il cocktail rovinato, esatto. Sì. La versione è firmata da Jim Sachs. Ma torniamo a Defender, quindi praticamente insomma è un gioco strategico. È un gioco strategico. Raccontiamolo, poi sentiamo anche quello che dice Giuseppe. Ok, giusto per poverino, facciamolo parlare, giustamente. So, il suo compleanno è passato così in tristezza e solitudine. Allora, vabbè, innanzitutto c'è una premessa che magari, insomma, appunto, visto che ho già detto, si dice è risico nel Medioevo, anzi nell'Inghilterra del Medioevo, intanto diamo una connotazione storica. Esatto. In pratica il gioco inizia proprio a seguito dell'assassino di Re Riccardo, che era il re ovviamente dei Sassoni, per mano di un traditore normanno, e durante questo increscioso fatto viene rubata la corona. Allora, se vi ricordate, una delle cose più belle proprio delle schermate iniziali, anche perché si capiva subito chi era la persona che ti, il tuo interlocutore, dopo che avevi scelto il appunto uno di tra i quattro, almeno nella versione Amiga, possibili vassalli di Re Riccardo, era appunto quello che ti commissionava la missione di tutta l'avventura, che era Robin Hood, o perlomeno c'era Robin qualche cosa, esatto. Che insomma in teoria dov'è? Sì, Robin di Locksley, Robin Hood. Era Robin Hood fondamentalmente. Esatto. Un po' come Gabibbo, insomma, che sì, che ti diceva appunto che dovevi ritrovare la corona e unificare tutta l'Inghilterra. Quindi ovviamente a questo punto, a seconda anche del personaggio che avevi scelto, ti veniva assegnato uno dei delle tra virgolette basi di partenza, quindi uno dei castelli situati nella mappa, e ovviamente dovevi andare via via conquistare territori, eventualmente anche occupando quelli nemici e ovviamente distruggendo i loro castelli, perché un po' come nel Risico, quando poi vai a catturare la base butti via, elimini dal gioco l'altro giocatore, no? Quando però accadevano alcuni eventi, fondamentalmente il gioco passava da appunto una struttura strategica a turni a alcune fasi action. Le fasi action erano in particolare tre fondamentali. La più famosa ovviamente era quella della giostra, quindi il classico scontro con i cavalieri, no? E quindi dovevi praticamente, c'era un vero e proprio torneo, tra parentesi in alcune versioni, se ricordo bene, non mi ricordo proprio per quella Amiga, perché non mi ricordo se diciamo era una cosa che scattava così, perché appunto il gioco randomicamente a ogni partita ti cambiava una serie di eventi, no? Si partiva con questa giostra e tu potevi scegliere, dopo tutta la stupenda introduzione che fungeva anche per mascherare, diciamo, il caricamento, no? Anche perché ricordiamolo, Defender of the Crown, almeno come che io ricordi, era anche uno dei primissimi giochi che, visto che aveva così tanti assets appunto grafici e sonori, che occupava ben due floppy da 7.20, se vi ricordate, e quindi c'era un mostro swap disk per chi come me disponeva di un solo drive, come quasi tutti in realtà. Sì. E quindi potevi scegliere appunto, prima che cominciasse la vera e propria giostra, se fare se combattere appunto o per mettendo in palio uno dei tuoi territori precedentemente occupati contro l'altrettanto dello sfidante, oppure combattere ovviamente per soldi, perché ovviamente i soldi erano una risorsa importante come in qualunque strategico, perché ti servivano ovviamente per ottenere truppe e quindi accrescere il tuo potere. E questa fase ovviamente era quella che io sbagliavo sempre, non riuscivo quasi mai a vincere, che ovviamente si vedeva all'inizio che partivano i due contendenti a cavallo alle due estremità, e poi c'era un'inquadratura in prima persona dove vedevi il tuo sfidante che si andava minaccioso avvicinando, e tu fondamentalmente lo scopo che per vincere, il trucco era quello di spostare entro un certo lasso di tempo la tua lancia esattamente al centro dello scudo avversario. Se non ci riuscivi, cadevi, venivi disarcionato e avevi perso. Ovviamente, se vi ricordate, avevo già detto che potevi scegliere i vari personaggi, che erano quattro, se ricordo bene, erano Wilfred di Ivanhoe, Cedric di Rotherwood, Geoffrey Longsword e Wolfric the Wild. Erano quattro. Tra le varie caratteristiche sì, per cui si differenziava, erano appunto questa abilità di giostrare, ovvero più migliore era l'attributo associato a questa abilità, più velocemente ti si muoveva la lancia. Alla fine è questo la magagna dietro questa sezione di gioco. Poi ovviamente l'altra famosa sessione era quando tu andavi ad attaccare un castello avversario, soprattutto se prima ti eri ricordato di comprarti le catapulte. In questo caso c'era il famoso assedio, dove appunto nei panni di un manovratore di macchine d'assedio, cioè di catapulta, dovevi lanciare questi balatoni contro questi pietroni contro le mura avversarie. Avevi un certo numero, mi pare, di pietre disponibili. Se riuscivi entro questo numero a distruggere l'intero muro, avevi fatto breccia e quindi avevi poi conquistato il castello. E poi l'ultimo era un altro evento che poteva capitare, sia perché decidevi proprio tu fisicamente di andare a rubare, appunto a razziare il bottino di un castello avversario, o perché anche gli stessi avversari ti attaccavano il castello, perché se vi ricordate infatti partiva quella famosa schermata dove si vedevano tipo i ladroni, i traditori che attorno a un tavolo che complottavano, se vi ricordate. Questa faceva da preambolo a questa serie, oppure tra virgolette, faccio un'altra parentesi, se come ultima missione bonus, questa randomica, dovevi andare a salvare una damigella sassone tenuta in ostaggio, c'era appunto l'assalto al castello, questa volta con i fanti appiedati e armati di spada, che solitamente divideva in due schermi, il primo che era all'esterno del castello, il secondo all'interno, e dovevi ovviamente in tutte e due riuscire a fare fuori a colpi di difendenti di spada i difensori, insomma le guardie che si trovavano a difesa del castello. E in questo caso invece entrava in scena l'altro attributo, che era quello di l'abilità con lo scherma. Il terzo, che invece era la leadership, serviva solamente appunto nelle vere e proprie battaglie, quelle che non erano arcade ma erano semplicemente strategiche, quando facevi scontri per occupare un territorio avversario, e questo ovviamente era difeso da una guarnigione dell'avversario. E in quel caso, se vi ricordate, c'erano due riquadri che indicavano appunto le tue forze, le forze in campo, le tue quelle dell'avversario, che andavano col passare dei secondi decrescendo, no? A seconda delle casualità inflitte. Potevi scegliere tre tipologie di attacco, cioè tre comandi potevi impartire, tre ordini. Il primo era l'attacco feroce, che però se non avevi i cavalieri in campo non serviva a niente, l'attacco standard o la ritirata, almeno questo era quello che ti permetteva di fare la versione Amiga. Credo che più o meno, insomma, ovviamente per vincere il gioco dovevi conquistare tutti cioè fare fuori tutti gli altri vassalli e quindi conquistare, unificare l'intero territorio. Tra parentesi, piccola cosa, se tu perdevi il gioco, in realtà, se vi ricordate, andava comunque avanti, perché ti faceva vedere alla fine chi è che la spuntava, ovviamente con una schermata che non era esattamente quella che invece ti mostrava il gioco quando eri trionfante. Ultima cosa, perché comunque non credo che si possa fare spoiler, suppongo, dopo veramente sarebbe assurdo a questa parte, se se riuscivi appunto, eri tu a spuntarla, a, quindi a unificare la, l'Inghilterra, alla fine veniva anche rivelato da una schermata di testo, perché ricordiamo, non, va bene che erano avanti ma non c'era nessun filmato né niente, che effettivamente eri diventato il nuovo sovrano, però la corona l'aveva rubata Robin Hood, che l'aveva fatta apposta per, diciamo, metterti alla prova, per vedere se tu eri in grado di, con le tue abilità, di riuscire in queste imprese, quindi poi te la restituiva. E c'era la famosa schermata di The End, che era tipo uno scorcio, un panorama, lo scorcio di un panorama, diciamo, come se tu ti affacciassi dalle mura del castello. Non so se ve lo ricordate. A me è rimasto sempre impresso, perché questo è stato il primo finale di un gioco che io abbia mai visto, perché Defender of the Crown per Amiga, come ricordo personale, sì, è stato il primo, sì, che sì, sono riuscito mai a completare. Cioè, un ragazzo in quinta elementare, insomma, che conoceva sia il nome, mezza parola, fermo, di me. Pure io me ne ricordo bene. Certo, un motivo di vanto, lo stesso, ecco, motivo, così come mi ricordo tutte le scene che tu hai descritto, che non soltanto erano, abbiamo detto, ci ritorniamo dopo, comunque disegnate meravigliosamente, ma c'era anche tutta una sorta di effettistica, anche dal punto di vista, diciamo, oggi sì, chiameremo post processing, vabbè, comunque in linea di massima tutta una serie di lavori dietro, che insomma facevano veramente cascare la mascella. Roberto? Sì, diciamo che allora giustamente Giuseppe ha dato una panoramica quanto mai interessante del gioco, e direi sostanzialmente completa. Vi lascio qualche dettaglio in più, giusto per allargare magari quella che è un po' la conoscenza del gioco e invogliarvi magari a recuperarlo in una delle versioni disponibili. Diciamo appunto che è un gioco strategico. Gioco strategico perché è sostanzialmente diviso in turni, e quindi ogni turno avete una scelta da prendere, quindi appunto il tenere un torneo, partire a conquistare un territorio, espandere il vostro esercito. Esercito che vi ricordo viene gestito con sostanzialmente col denaro che conquisterete, in quanto ogni cioè sì, più territorio, esatto, occupavi, più poi avevi entrate, cioè da parte fondamentalmente degli abitanti. Anche se poi all'inizio l'obiettivo era quello della gnocca, poi dopo, insomma, poi dopo vabbè, abbiamo capito che era solo quello. 99%. No, ma io guarda, allora scusami, mi hai fatto partire una parentesi. Non so se vi è mai capitato all'interno della stessa partita di andare a salvare un'altra donzella, mentre ne avevi una già, ovviamente. A me è capitato, e la cosa bella succedeva che la prima, cioè dopo che tu salvavi la seconda, e giustamente la possedevi in tutti i sensi, la certo, prima poi ti lasciava. Infatti compariva solo poi il ritratto della seconda, ovviamente i bonus fondamentalmente monetari, cioè la dote della prima veniva poi decurtata con i turni successivi, col passare dei turni successivi. E quindi in qualche modo scegliere solamente una, sì, donna da portare fino alla fine. Sì. E diciamo che appunto ogni turno potevi scegliere varie scelte, tra cui quello di aumentare il proprio esercito, e il proprio esercito che sostanzialmente era diviso in, se ricordo bene, quattro diverse combinazioni. Quindi c'erano i soldati a piedi, tre. Soldati, sì, esatto, soldati cavalieri e le catapulte, cioè fanti, cavalieri e catapulte, esatto. Catapulte che sono quanto mai fondamentali, e spesso ci si dimenticava, come ricordava anche Giuseppe, di sì, comprare per tempo. Comunque vabbè, è anche esoso, oserei dire, perché era ovviamente l'unità più costosa, mi pare che era tipo 15 pezzi d'oro rispetto agli 1-2 dei fanti e dei cavalieri. I cavalieri da 10, se ricordo bene. Ah sì. E adesso poi controllerò adesso mentre parliamo, 25 forse la catapulta, adesso vado a recuperarlo. E appunto, come diceva anche giustamente Giuseppe, quindi magari andiamo a identificare le differenze delle varie versioni. Quando si affrontavano due eserciti, il tutto era riassunto in una schermata con dei numeri che progressivamente diminuivano. Le versioni, alcune versioni, tipo quelle dell'Atari ST, al posto, o meglio, a integrazione di questi numeri che si diminuivano, c'era proprio una schermata in cui era possibile vedere fisicamente due eserciti contrapposti. Niente di che, un'immagine per lo più statica, ma comunque qualcosa di interessante. Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare, e qua mi allaccio un po' al discorso cinematografico, è l'assalto al castello, dove, come sempre giustamente diceva Giuseppe, sostanzialmente si divide in due schermate. Nella seconda, quando entrano nel castello, una cosa che mi ha colpito molto ai tempi e che mi è rimasta impressa nella memoria è l'ombra dei combattenti sul muro. Sì, non pensavo che c'eravamo già arrivati. Sì, l'ombra era... che poi tra l'altro è riprodotta in tante versioni, anche in quella del 64 c'è, ma non c'è ovviamente la versione NES o tante altre. Insomma, veramente quello dimostrava non soltanto una grande capacità tecnica, che sicuramente che poi voglio dire con 500k, no? Perché poi 500k in realtà anche di meno, e considerate poi che quella grafica non era più la grafica del Commodore 64, la grafica che pesava, ma anche l'intuizione del senso dell'accuratezza, no? Del dettaglio che oggi per noi daremmo per scontato, in realtà allora non lo era manco per niente, insomma. Quindi veramente sì, hai tirato fuori una cosa fantastica, ma in realtà anche le animazioni stesse erano impressionanti. Forse l'unica cosa che veramente un po' stonava era il modo in cui questi spadaccinavano, perché a quell'epoca non è che andavano di fioretto, insomma, andavano con i spadoni della Biastima, insomma. Però vabbè, era probabilmente più facile magari realizzarlo in quella maniera lì. C'era poi una versione del 64, la tizia che si spogliava, c'era un'animazione in più che non c'era sulla... Sì. No, la che coscia. Lei si è di spalle e scivola via tutto il vestito e si vede la schiena nuda di lei. Solo la schiena, chiaramente. Che se... È la coscia. Secondo me sotto il monitor c'è la coscia. La coscia ce l'hai. Nessuno di voi mi ha provato ad andare sotto il monitor a vedere. Cioè, veramente. Sto imbarazzando. No, io volevo solo ricordarvi un'altra cosa che è anche... una cosa che era presente soprattutto nella versione Amiga, che per certi versi da un lato la caratterizzava e soprattutto indicava, era sempre indicativa della volontà appunto di essere giochi cinematografici, ma ovviamente era innanzitutto di per sé tutti i giochi di CinemaWare, e quindi ovviamente anche Defender of the Crown per Amiga erano proprio a denotare questa volontà di fare un'esperienza interattiva piuttosto che un banale videogioco d'epoca, come quelli d'epoca, no? Fondamentalmente arcade, non c'era nessuna schermata di punteggio. Poi, se vi ricordate, per esempio, quando c'era questa sezione di spadaccinare l'assalto al castello, mentre le versioni tipo DOS o anche di forse anche quella per Commodore 64 riportavano l'energia tua e del nemico, quella Amiga questa informazione era completamente assente, cioè era nascosta all'interno del software che lo calcolava per i fatti suoi, ma non era disponibile al giocatore. Non so se vi ricordate questi dettagli particolari. Beh, sicuramente il discorso del punteggio è un discorso interessante che abbiamo già toccato anche in altre occasioni, ed è noto appunto una volontà di proporre un gioco di un certo tipo, quindi questo sicuramente è un punto da ricordare. E so Simone vuole intervenire, se non ricordo, se non ho capito bene, no? Io stavo leggendo una mail. Ok, ho capito male. No? È un ritorno di cuffia, tranquillo. Oppure probabilmente ho fatto è uno che sta partorendo, uno dei due. Mentre che conduco e gestisco roba del genere, fa anche public relation, e allora mi sono un attimo perso. Comunque, prego. Proseguo. Altri elementi a integrazione un po' della spiegazione panoramica. Allora, vado a specificare bene il discorso dei soldi, giusto per nota storica. Un soldato costava una moneta d'oro o un gold, un cavaliere 8, una catapulta 15, qua ha ragione Giuseppe, ma quello che mi ricordavo, che non mi tornava in mente, è venuto dopo stupidamente, è il castello che potevi chiaramente costruire, che ti serviva anche per aumentare la tua potenza, e quello costava 20 gold, quindi comunque hai quattro diverse scelte di investimento. Diciamo che inizialmente, giusto per dare un racconto un po' storico, meglio un'esperienza di prima persona, inizialmente facevi carne da macello il più possibile per poi affinarti man mano che andavi avanti. Sì, anche perché c'è il discorso che tu fondamentalmente nella stessa mappa muovevi la tua armata, no? E quindi di volta in volta dovevi tornare anche sui tuoi passi per andare a prendere unità da quelle lasciate, diciamo, a difesa di quel territorio, no? Chiaro. E questo mi permette di fare un altro collegamento sempre al discorso dei turni, che sia noi muovevamo, ma anche tutti gli altri contendenti muovevano contestualmente. Sì. Cosa succedeva? Che in alcuni casi magari andavi a entrare in conflitto con questi contendenti, sia per tua volontà ma per loro, ma In più, visto che comunque la natura, diciamo, bellicosa di tutti i contendenti, comunque questa voglia di sangue che imperava ovunque, capitava che si combattessero fra di loro, quindi spesso andava anche a tuo vantaggio, in qualche modo permetteva di ridurre un po' la difficoltà complessiva del gioco. Aggiungo anche il discorso Robin Hood, che compare all'interno del gameplay, in quanto per 3 volte, se ben ricordo, può essere richiesto il suo aiuto per... Sì, perché c'era proprio il territorio, c'era una striscia verde che era la foresta di Sherwood, se ti ricordi, dove ti potevi recare proprio fisicamente. Era un po' l'aiuto del nostro simpatico eroe in calzamaglia. E per chiudere un po' il discorso di difficoltà o di comunque quello che è l'esperienza ludica nel suo complessivo, c'erano anche degli eventi randomici che in qualche modo andavano a minare o ad aiutare quella che era le tue avventure. Ad esempio quando una provincia si rivoltava contro di te, quindi la perdevi sostanzialmente, tornava a essere neutrale. Quando le fanciulle si spogliavano, o meglio, chiedevano la tua presenza per spogliarsi. Sì. Nella versione per Commodore 64, peraltro, vedevi anche a un certo punto dalla finestra che con cui si univano, diciamo, si copulavano, salutavano. Scoma. E so che sì. Vabbè, no, Alberto Sordi avrebbe detto che stanno a scopare. Altre cose che mi ricordo del sabotaggio da catapulta, questo non lo ricordo, capitava abbastanza spesso. E la questione Commodore 64 sicuramente. No, in quella Amiga non c'era, diciamo che la catapulta era solo limitata all'acquisto o alla fase in cui attaccavi, e anche in cui attaccavi c'era solo, diciamo, un tipo di proiettile. Tra l'altro non so chi me l'ha detto, al di là del discorso grafico, che comunque il gioco, quello per 64, era comunque più difficile rispetto a quello di Amiga. Era più completo dal punto di vista strategico, quindi era un po' più profondo, anche dal meno adesso uso un termine che magari abbiamo non esatto, più arcade era, diciamo, la versione Amiga rispetto a quella per Commodore 64, dove arcade intendo unicamente che la profondità strategica era ridotta a alcune scelte, non a quello che effettivamente era l'idea degli sviluppatori. Tanto è vero che, citando ad esempio la catapulta, nelle versioni più avanzate poteva lanciare anche dardi infuocati. No, che poi infatti io vorrei arrivare un attimo anche a questo punto, perché poi abbiamo accennato prima, e c'è anche qui in scaletta, si diceva il fatto che per scelte commerciali o per necessità finanziarie o del genere, in realtà Cinemo era non ha inserito o non ha attivato feature all'interno del gioco, poi a seconda delle varie versioni, credo, però insomma, ecco, cerchiamo magari se le sappiamo, ecco, raccontiamo magari quali sono questi elementi che non sono stati inseriti, per capire poi magari che differenza c'erano tra le varie versioni e perché poi magari appunto alcune versioni come quelle per Amiga, come dicevi te, magari venivano considerate un po' più cazzarelle rispetto a magari a versioni come quella del 64, che ribadisco io non la giocai, però mi ricordo insomma che ce l'aveva un mio amico e mi sembrava molto più complicato insomma rispetto a quello che giocavo io su Amiga. Sì, sostanzialmente qua chiedo un po' l'aiuto anche a Giuseppe, le differenze sono di due tipi: grafiche e vabbè, quelle più evidenti, anche chiaramente, quindi necessità hardware, insomma, penso che esatto, quindi sicuramente il famoso schermato di combattimento, le animazioni, insomma, questo tipo di differenze. E strategiche, dove sostanzialmente abbiamo alcune caratteristiche che mancavano nella versione Amiga, e parlo ad esempio delle famose palle infocate. Sì, diciamo che la catapulta due ruoli, cioè da un lato appunto per quanto riguarda la sedia aveva appunto pure come quest'altra feature dei proiettili infuocati, dall'altro lato la catapulta potevi, ed era il motivo anche per cui da un lato logico, no, del perché tu te la potevi anche annettere al tuo esercito, no, era che la poteva anche essere usata durante gli scontri, quelli diciamo tattici, perché potevi mentre c'era lo scontro utilizzare, diciamo, le cosiddette attacchi ad area benefici, no, che mandavano tipo una specie di polvere che decimavano parte della truppaglia durante appunto lo scontro, quello tra soldati, no, appiedato. E poi un'altra cosa che veniva anche introdotta, questa se mi ricordo bene, nella versione per NES, la versione per NES aveva addirittura più di 4 personaggi, cioè la rosa di personaggi con cui iniziare il gioco non era limitata a quei 4 che avevo nominato prima, ma ce n'erano pure altri. quindi diciamo aveva questa, era anche arricchito appunto da, dalla possibilità appunto di interpretare. Però io nelle varie versioni che nelle varie versioni che mi è capitato di vedere, in realtà poi alla fine c'è anche quella per Spectrum e via dicendo, mi sembra i personaggi erano sempre quelli, poi non so in quali altre versioni è sempre un'altra cosa che poteva, era possibile fare come, ma c'era anche diciamo un qualche altra manovra tattica pure sempre appunto oltre alla ordinare appunto l'attacco con la catapulta durante lo scontro, ma potevi anche tipo decidere di attaccare i fianchi, se vi ricordate. Sì, cosa che era possibile appunto nella versione anche Commodore 64 e anche quella citata da te, da X-Spectrum. D'altronde queste animazioni non erano, diciamo, chissà che cosa richiedevano, sempre scegliere un'opzione in più dal menu. Poi diciamo l'esito era grafico, ma fino a un certo punto. Sì, considera che comunque allora tutti i personaggi avevano caratteristiche diverse. Ad esempio, se un personaggio appunto era più forte nel combattimento nei tornei, ti permette di guadagnare più leadership o più territorio più facilmente, di contro nei raid e nei castello magari era diciamo in qualche modo svantaggiato, diciamo quello basico di Riffredo Ivano era il diciamo quello base per iniziare, il migliore. Era il migliore dal punto di vista della giostra, e poi tu bilanciato sia come leadership che come scherma. E poi a scegliere, quindi il livello di difficoltà diciamo in qualche modo mi ha influenzato anche la tua scelta iniziale. Sì, che teoricamente ovviamente pensa appunto nel mio caso, metti nei miei panni quando diciamo lancia per la prima volta, non è che andavo a capire esattamente che quelle caratteristiche descrittive sotto il riquadro che cosa indicavano, quindi sceglievo il personaggio che mi piaceva di aspetto di più, che ogni volta era quello che era tra parentesi bravo nello schermo, che era Geoffrey Longsword, sì, il peggiore era Wolfric Wild, che era The Wild, che era una pippa, diciamo era l'hard mode fondamentalmente per cioè la modalità difficile per, ma io per ce n'era uno scegliamo sempre io, che era quello che assomigliava al ragazzo che stava nella sitcom Tre cuori in affitto là, non so se lo ricordate. quello senza barba, quello sbarbatello con i capelli da una parte. Credo che fosse no, secondo me è Cedric Forotto. Senza baffetti, senza barba, senza niente. Allora Geoffrey, quello diciamo esatto, con i capelli tipo lisci tipo bocco, i capelli a vaccarella, sì che era quello che sceglievo pure io, che era quello bravissimo a schermare, però tipo era una pippa ed ecco il motivo per cui perdevo tutte le varie giostre, no? Ecco, e poi un'altra arricchimento che era presente nella versione pure per Commodore 64 e NES era che un'estensione della fase di giostra, no? Cioè qua dopo che nella versione Amiga, dopo che tu cadevi da cavallo era finito là, invece nelle altre versioni c'era una seconda fase dove i due cavalieri che combattevano appiedati utilizzando le classiche palle chiodate, no, le mazze chiodate e gli scudi, che sembrava una, diciamo un precursore dei picchiaduro 2D, no? Tipo alla Street Fighter fondamentalmente, anche se l'attacco era solo blocco e colpo, no? Sì, diciamo che era un concept antesignano. Esatto, ricordo anche c'era Fight! Forse no. E soprattutto l'energia di partenza, cioè se tu tipo eri caduto ovviamente da cavallo nella fase precedente, ovviamente partivi più svantaggiato. Tutto molto molto approssimativo, ricordiamocelo, insomma, nel senso che senso. Però per l'epoca però diciamo era bella questa volontà comunque di arricchirlo, che appunto diciamo che è stato uno dei giochi che ha inserito l'elemento del quel che tu fai si ripercuote sul resto, che comunque non è insomma nella logica dei videogiochi da allora non è poi così banale e scontato come noi pensiamo. A questo punto io farei, se non avete altro da aggiungere su questa parte, solamente un'aggiunta, proprio credo allora, che abbiamo sviscerato, guarda, giusto per completezza proprio, diciamo così, completezza informativa, che è un'altra delle differenze delle versioni, era anche c'erano diversi castelli da attaccare, diverse tipologie nelle versioni più avanzate. Ma tanto poi delle versioni un attimo ne parliamo dopo, perché io alcune me le sono guardate, insomma più o meno sì, ci sono ci sono. Sì, ok, allora a questo punto ci pausiamo un secondo con il brano che non potrebbe altro che essere il brano di introduzione della colonna sonora originale di Defender of the Crown, nella sua versione ovviamente per Amiga. Abbiamo parlato di quello che è stato Defender of the Crown nella sua versione ovviamente per Amiga, perché quando l'abbiamo caricato per la prima volta sui nostri monitor tramite il floppy disk, ci siamo trovati insomma all'introduzione, siamo trovati alle animazioni, siamo trovati di fronte alle, alle schermate anche statiche, i campi lunghi dei castelli, le inquadrature dentro appunto i castelli, le ombre che si muovevano insieme ai, ai fregnetti, la grafica e la tecnica sicuramente avanzata, che come abbiamo accennato anche in precedenza insomma probabilmente merita un certo tipo di approfondimento. E a questo punto insomma, che poi sappiamo che i nostri ascoltatori queste sono le cose che bramano, se puta caso saltavamo una cosa del genere ci avrebbero dato fuoco a casa. Quindi Roberto, parliamo di questo insomma, parliamo di quello che Cinemaware ha portato tecnicamente anche nel mondo dei, dei VG. Ma essenzialmente una bella grafica, quindi bei disegni, bella roba insomma, bella roba. Pure musica, ma... brava, brava musica. No, la musica guarda, ti dirò, l'hanno fatto di me. Ha fatto di meglio, sì, Queen è un esempio molto bello. Comunque, vabbè, tornando un po' sul tema, che sogniamo Vaccarella, come dice il mio amico Pizzi. Esatto. E... a Cazzarella, no, Vaccarella è più bello, futuro nome di mio figlio. Quindi. Vaccarella Bertoni. Vaccarella Bertoni, esatto. E diciamo che sostanzialmente si può riassumere il, la qualità della grafica, tecnica e artistica di Defender, o comunque della Cinemaware, con un unico nome, Jim Sachs. Jim Sachs è uno di quegli autori che probabilmente non tutti conoscono in, in maniera approfondita, comunque probabilmente se non nominare non sapete bene chi è, ma è l'autore di uno dei, di alcuni delle escamotage tecnici più apprezzati per tutto quello che riguarda il mondo Amiga. Stiamo parlando di un valente programmatore, adesso purtroppo in pensione, è nato nel 49, quindi sicuramente ai tempi del, dell'uscita di Defender of the Crown era diciamo nel pieno della sua carriera, e ha saputo veramente portare qualcosa di importante a livello della grafica, perché arrivò a creare dei file animati, comunque delle animazioni che tecnicamente animazioni per delta frame, che veramente fecero scuola all'interno sia del contesto Amiga che comunque all'interno del contesto tecnologico. Sostanzialmente, e qua cerco di spiegarlo senza creare troppi imbarazzi al, al nemico presentatore, era praticamente imbarazzi, due imbarazzi in merito a cosa? In merito alla, alla qualità dell'esposizione su questa. Ah, ecco, ok. Vai, vai. Continua, perché sai che ogni volta che tu esponi c'è un espositore che muore insomma da qualche parte. Esatto, o un londinese o un napoletano. Esatto, si allarga il campo. È preoccupante questa cosa, perché piano piano rimarrò da solo. Esatto, penso. Esatto, se rimarrà uno solo Bertoni, chiaramente. Oh, diciamo che essenzialmente sono due le cose importanti. Innanzitutto il discorso del, dell'utilizzo del cromatico dei colori. Tu parlavi dei famosi 32 colori. Ecco, la sua capacità di creare le sfumature dei vari colori per ottenere un effetto di animazione. Penso ad esempio alle inquadrature del mare o del, del fuoco. Quindi creare movimento sostanzialmente solamente con il diverso gradiente di colore è qualcosa che introdussi per la prima volta. E appunto riuscì a rendere veramente un aspetto cinematografico vivo di quello che è la presentazione grafica. In seconda battuta è la capacità di riuscire a fare tutto questo utilizzando dei file di piccolissime dimensioni, tanto è vero che utilizzando l'animazione per l'alta frame che accennavo prima, quindi ovvero con ogni frame, quindi ogni immagine veniva sviluppata solamente ricordando quelle che erano le differenze fra le immagini precedenti, quindi non veniva riprodotta completamente l'immagine ma solamente quelle che erano le variazioni, era possibile soprattutto i computer 8 bit di prima generazione e successivamente anche quelli più evoluti ottenere un effetto di movimento, un effetto di modifica, un'animazione che, come ricordi anche Simone, completa e affascinante con una memoria ridotta, e quindi questo permetteva di comunque declinare quella che era l'idea anche su macchine sostanzialmente non dotate come può essere l'Amiga situazione. Poi i risultati in questo senso sono stati altalenanti: la conversione per DOS pessima, conversione per Commodore 64 invece sicuramente degna di nota. Ma io penso che lì però al di là della capacità che probabilmente erano anche le capacità di poter ottimizzare o non ottimizzare magari un certo tipo di codice o un certo tipo di grafica su altre macchine magari si conoscevano di meno, c'è anche poi ovviamente le potenzialità dell'hardware, perché insomma le versioni del PC all'epoca non credo che il PC avesse una scheda che superasse i 16 colori, partiamo da questo insomma, e non so, le Lega o le CGA insomma, se non mi sbaglio non c'avevano neanche una scelta cromatica tanto interessante come quella del 64, che sì erano 16 colori ma erano comunque i 16 colori che con i quali ci si poteva lavorare, insomma, invece c'è il magenta, ce l'aveva il marrone, lo stesso problema che c'aveva lo Spectrum, che invece oggettivamente c'aveva ben altri problemi dal punto di vista della gestione dell'hardware della grafica, e quindi ovviamente insomma, è venuta fuori poi una versione abbastanza minimale da quel punto di vista, che era tutta completamente, quasi completamente basata sulla parte strategica e qualcosa così della parte del castello, c'era una sola addirittura scena e c'erano i tornei, che ovviamente è completamente diverso da come lo vedevi nella versione Amiga. Sì, poi considerate anche che i mezzi che lui utilizzava per ottenere queste rappresentazioni grafiche, questi dipinti sul monitor, volevo chiamare anche così appunto per dargli un giusto riconoscimento, erano spesso fatti semplicemente con programmi come D-Paint, quindi non programmi esattamente evoluti che potevano permettere chissà cosa. Ma questa però era pure questo intervengo, dato che parliamo un po' anche di ricordi, insomma, rifondiamo all'interno della dissertazione, era una questione che, cioè, questo è un fatto che capitava spesso, perché se tu avevi Deluxe Paint, per esempio, potevi aprire, non dico fondali, però potevi avere almeno le schermate di introduzione ai giochi e le potevi tranquillamente modificare, tant'è che la tecnica che, come dicevi tu, si utilizzava sulle sfumature che andavano a rotazione, no? Quindi praticamente c'è una sfumatura dal rosso al giallo per fare il fuoco, ovviamente poi queste sfumature roteavano praticamente e quindi davano questa animazione. È una delle tecniche che mi sono imparato proprio smanettando con Deluxe Paint all'interno dei programmi, insomma, che era una cosa che era abbastanza affascinante, ma era un'epoca dove praticamente c'era meno raffinatezza dal punto di vista della protezione, da un certo punto di vista, però sicuramente c'era più possibilità anche di imparare, no? Perché comunque veramente con Deluxe Paint ci aprivi quasi tutto, insomma, più o meno, no? Beppe, non so se tu te lo ricordi. Sì, sì, lo utilizzavo anch'io, anche se ovviamente nel mio caso i risultati erano un po' scarsi. No, vabbè, non è che, però insomma, sì, insomma era il programma di grafica per eccellenza de facto per Amiga, almeno per come lo ricordo. Sì, era io. Il programma penso. Tra l'altro riconosceva tutti quanti i formati, ma addirittura c'è un mio amico, sì, che poi ovviamente verrà in trasmissione quando arriveremo all'era Amiga, proprio perché lui è stato un grafico professionista per Amiga, lui utilizzava Deluxe Paint, cioè nel senso era proprio il programma che si utilizzava anche per fare le animazioni. La cosa pallosa era che quando ovviamente lui salvava le sue animazioni o le ricaricava, lui Deluxe Paint caricava fotogramma e fotogramma dai dischetti da 7.20, sì, insomma, che conosciamo, oppure magari dagli hard disk, insomma, i risultati erano sicuramente più pallosi rispetto ad oggi, che i tempi di rendering, anche di lavorazione sul 3D, perché ricordiamo che l'Amiga poi lavorava tranquillamente senza problemi anche su un certo tipo di grafica 3D, insomma, quindi era veramente una gran macchina. Ne parleremo, insomma, di queste cose, perché perché ce ne so da scoprire, anche cose che ci sorprenderanno molto di più. Ribadisco, oggi siamo abituati a vedere certe cose, ma allora insomma non erano assolutamente scontate. Scusa Roberto che t'ho... No, tranquillo, io volevo solamente aggiungere appunto che al di là di Lux Paint, che appunto utilizzava per creare un po' quello che era la base, utilizzava un altro programma che, giusto per a titolo informativo, che era Brilliance, adesso che era il secondo tool che utilizzava appunto nel suo epoca d'oro dell'Amiga, e si trovava veramente bene, tanto è vero che riusciva a creare in maniera abbastanza rapida quelle che erano le sue creazioni, e ricordo magari con piacere che utilizzava la mano sinistra sul mouse e la destra mano sinistra sulla tastiera, la destra sul mouse, e riusciva in continuo di rinvii di input fra la mano sinistra e la mano destra a creare vere e proprie d'arte, opere d'arte in pochissimo tempo. E ancora di più ricorda che al giorno d'oggi ad esempio utilizza programmi come Paint Shop Pro che non riescono a raggiungere gli stessi risultati, quindi potete capire che già ai tempi Amiga, per questo punto di vista, probabilmente dal punto di vista grafico e dal punto di vista musicale, poi ci torneremo sicuramente in altre puntate, era una macchina che poteva permettere di ottenere risultati sicuramente interessanti, quindi sicuramente un artista che ha saputo sfruttare al meglio quello che era un po' quello che aveva a disposizione, questo sicuramente. Considerate poi il discorso, poi qua chiudo, discorso animazione, quindi l'utilizzo delle palette cromatiche a scaletta, scusatemi, graduate, e venne poi implementata anche in altri programmi tipo Aegis Image, Aegis Animator, quindi sì, diciamo che ha fondato proprio le basi per quelle che poi sarebbero state le successive evoluzioni tecnologiche. Certo. Beh, è stata una grande era, probabilmente ricordiamo con romanticismo i nostri primi 8-bit, l'era della prima programmazione, roba del genere, ma probabilmente quella dell'Amiga 500 in qualche modo è stata forse l'era più luminosa, più splendente da un certo punto di vista, anche più illuminista quasi, perché veramente ha portato molta gente a fare cose che non pensava di saper fare, imparandosi magari anche in maniera autodidatta, anche grazie al fatto che comunque, come dicevamo all'inizio, questa è una cosa che sulla quale insomma nascondersi sarebbe stupido, ovviamente la maggior parte dei programmi erano piratati, quindi cioè non è che c'era altrimenti tanto software non ce lo avresti mai avuto, ma compresi i software musicali, i software di campionamento, di digitalizzazione, insomma, quindi c'è stato tutto un mondo dietro l'Amiga che veramente ha fatto esplodere questa nuova mania, insomma, questa nuova tendenza a lavorare sul multimediale, a lavorare sulla musica, sulla grafica. È tutta la demo, esatto, scene, cioè esatto, anche di tutti i tre, diciamo, nei giochi craccati, insomma, le intro fatte che c'erano anche, gioco, no? C'erano anche su 64, però anche è vero pure che sull'Amiga hanno raggiunto, infatti pure lì dei livelli, insomma, degli standard relativi alti, che poi se ti ricordi molte le ricordiamo anche perché erano quelle che inglobavano al loro interno, oltre all'animazione c'era il selettore dei trainer, no? Per alcuni giochi dove ovviamente era possibile selezionare vite infinite. Pensa che proprio recentemente, forse durante quest'inverno, rincontrando un mio amico che non vedevo da tanto tempo, mi ha detto: tu non lo sai, ma io c'ho ancora i dischetti che quando caricavo appariva la schermata animata CBSoft Pirate House, no, quella cosa, perché io modificavo ovviamente tutte le intro, facevo tutte queste strozzate qua, no? Che uno dice: ma davvero facevi queste cose? Sì, facevo, e mi ci divertivo veramente un casino. Adesso potete anche venire ad ingabbiarmi. Detto questo, io tornerei, se non avete altro da aggiungere, Roberto. No, per stavolta ti interrompo. Tornerei alla questione delle versioni, perché come abbiamo detto, se qualcuno dice tanti nemici tanto onore, se fai tante copie tanto onore ugualmente, nel senso che il fatto di aver fatto tante conversioni significa che comunque il gioco di per sé ha avuto un grande successo, se non altro dal punto di vista, insomma, dell'appeal, no? che ha riscontrato ovviamente sui videogiocatori. Poi non so i dati di vendita, non so neanche se ci siamo andati a cercare, però ecco, ci diamo le versioni, come dicevamo, a MS-DOS, ad esempio NES, che era una versione un po' ibrida, le versioni per Apple, che poi ovviamente la versione per Apple GS, chiaramente già stava parlando di un computer abbastanza potenziato, anche Atari ST non era male, per MacOS non l'ho mai vista, quella... quella Atari ST, anzi, diciamo, era di fatto graficamente era quella più simile, esatto, bravo. Come sonoro era un po' più scarso, perché ricordiamo che c'è stato sempre un certo diciamo salto in avanti dell'Amiga rispetto all'Amiga, è sempre stato un po' più un passo più avanti rispetto alla Atari ST dal punto di vista sonoro. E poi, se ti ricordi, c'era però dall'altro lato quella Atari ST era quella che, essendo uscita dopo, come per le versioni Commodore 64, DOS e NES, includeva che quelle dell'Amiga non c'era, esatto, assenti, sì, appunto, però graficamente, esatto, sì, era quella più vicina a me. Quella per macOS non l'ho mai, sì, vista. Ho visto quella per ZX Spectrum, abbiamo parlato prima, insomma, andatevelo a vedere, sì, anche su YouTube, sì, se avete le stesse curiosità che ho io. Poi ovviamente l'Amstrad, abbiamo detto anche Commodore 64, Amiga ovviamente, sì, CDI, e qui mi fermerei un attimo, perché anzi lo sposterei un attimo verso la fine. Vabbè, Windows. Aspetta, prima di questo, allora ti interrompo, scusami, sempre, che c'è la prima versione di Defender of the Crown portatile. Bravissima. Che è quella per Game Boy Advance, che tra l'altro non era manco brutta, cioè, nel senso, ho detto. No, era molto bella. Assolutamente. Anche perché era il Game Boy con le palette a colori. E vabbè, poi diciamo, quella per Windows ovviamente portava poi quello che ovviamente, sì, MS-DOS non aveva, quindi un'era, una generazione di differenza, sì, e diciamo quello per CDI, che era praticamente il Philips CDI, per chi se lo ricorda, buongiorno, ci arriveremo anche a quello, era questa macchina che aveva ovviamente i CD e ci ha portato anch'essa nell'era del multimediale, dove c'era la versione speech ovviamente del gioco, dove il gioco veniva poi ridoppiato praticamente con una recitazione in inglese, e quindi tutta la parte testuale poi veniva ovviamente raccontata. Ma aggiungerei, non so, l'avevo letto da qualche parte, ma mi sa che l'avete levato dalla scaletta, non l'ho visto sulla scaletta, ho visto da qualche altra parte, che c'era una versione per Amiga CD32, che pace all'anima, sì, allora, sua. Quella per CD32 diciamo che è una versione rarissima, anche perché non fu vera e propria commercializzata, fu pronta, però quando era pronta già era fallita Commodore, okay, quindi di fatto non l'avevamo più potuta commercializzare, però quelle poche copie realizzate, allora, la prima diciamo, cosa è che loro lo chiamarono Defender of the Crown 2, cosa che non era, sì, perché in realtà il gioco era lo stesso. Ma se andate a vedere anche lì i filmati che si trovano su YouTube, c'era una grafica assolutamente potenziata, ancora veramente stupore e bagliore negli occhi. E però vabbè, poi uscirono ovviamente le versioni per CD-ROM con, ovviamente, come abbiamo già detto, insomma, tutta la parte doppiata in inglese antico, che fu la cosa, insomma, che però poi nella sostanza, infatti, fu anche un po' criticato, perché proprio nell'era, insomma, dell'inizio, degli albori dell'era multimediale, del CD-ROM, e quindi le schede audio, quindi l'aggiunta dello speech all'interno dei giochi, spesso e volentieri questi giochi venivano semplicemente riproposti tali e quali, soltanto che con l'aggiunta, sì, o di una traccia sonora sotto, che era la traccia CD audio, o di una traccia parlata digitalizzata e recitata, ovviamente non aggiungendo null'altro. È vero pure? Sì, un po' come capitava per le versioni CD delle avventure della Lucas. Io infatti, guarda, devo dire una cosa, ci fu una cosa peggiore, sì, perché la Lucas ovviamente, quando iniziò ovviamente questa era, fece uscire un paio di giochi, in particolare nella versione, sì, Talkie, e uno di questi era Indiana Jones The Fate of Atlantis. Il gioco era praticamente identico, sì, solo che c'era ovviamente la recitazione in inglese, sì. Mi ricordo che però da per gioco, sì, che io avevo il catalogo a casa, leggendo, scorrendo il catalogo, c'era Monkey Island CD ITA, e io sono andai subito a comprarlo, perché cazzo, hanno fatto Monkey Island in italiano, no? Cioè, voglio dire, vaffanculo, me lo so comprato immediatamente, me lo sono portato a casa, e ovviamente un po' deluso sono rimasto dal fatto che in realtà ITA, no, era poi tra l'altro multilingue, perché c'era italiano, spagnolo, sì, francese e tedesco, e di CD Roma c'aveva, cioè, era solo a livello, esatto, di testi, il DC, esatto, di Rome c'aveva semplicemente che tutta la base musicale era in traccia audio, sì, quindi c'era la traccia, sì, e lì fu veramente una grande delusione, a differenza di Loom, che invece fece un gran lavoro, perché Loom, vabbè, lo fecero già, sì, con l'audiocassetta, quando, ma stiamo divagando, comunque, pensate questa cosa, però ecco, insomma, ricordiamo che questa cosa delle versioni di Defender of the Ground in versione multimediale c'erano semplicemente questo elemento, e non avevano aggiunte dal punto di vista né della animazione dal punto di vista grafico, che ovviamente poi questo gioco penso che l'hanno veramente spremuto per almeno un decennio, se non mi sbaglio, penso che ci sono dati Sì, diciamo che l'hanno spremuto fino adesso, appunto, con le ultime versioni di cui andremo. Così, allora, infatti, se non mi sbaglio, esatto. Roberto. Però vorrei dire solo una nota di colore sul Defender Crown 2, giusto per dare sempre la competenza a mangiare. Allora, diciamo che la genesi è stata particolare, diciamo, perché vede come uno dei maggiori protagonisti il famoso Jim Sachs di cui parlavamo poc'anzi. Sempre che andò a comprare i diritti nel momento in cui CinemaWare era comunque in difficoltà. Quindi diciamo che sostanzialmente inizialmente era veramente poco contento di quanto prese per i lavori sul titolo originale. Infatti uno dei motivi per cui comunque si allontanò dalla società fu questo, e nel momento in cui vide la porta aperta per poter tornare in qualche modo sul franchise, cacciò il grano e provò a fare questa versione famosa che poi la cui storia abbiamo appena raccontato. Quindi potete vedere che comunque al di là del valore ludico c'è sempre comunque un retroscena economico che in qualche modo delinea quella che sarebbe stata la rotta del gioco. Basta, giusto per competenza, visto che ti piace queste curiosità. No, infatti sei fantastico, mi sono venute anche le emozioni interiori. No, ma al di là di tutto, torniamo un attimo a questa cosa delle, perché ovviamente non c'è mai fine, insomma, poi allo sciacallaggio, no, nel senso, no, per carità, anzi alla mungitura, che poi in realtà, come abbiamo detto, insomma, Defender of the Ground recentemente, penso, insomma, qualche anno fa, ha riaperto, sì, Defender of the Ground CinemaWare ha riaperto il sito, tra l'altro credo che annunciò tempo fa una sorta di progettazione di nuovi titoli, nuove cose, poi credo che sia andato un po' alla deriva. C'è invece, se non mi sbaglio, a Vaccarella c'è invece poi il Wings, mi pare che fecero un Kickstarter, che pure quello non andò un granché bene, se non erro, però comunque insomma abbiamo le versioni mobile di Defender of the Ground. In realtà ormai ad oggi la versione mobile, perché la versione iOS che uscì appunto un paio d'anni fa, se provate adesso a cercarla sullo store italiano non è più disponibile. Perché? Lo sappiamo. Boh, non lo so, problemi di licenza, suppongo. Ah, perché Android di fatto che non... Android sì si trova, però se provate a cercarla tramite iTunes o anche da browser web sul sito Apple, ti dice che non è disponibile per lo store italiano, se è stato un account italiano, ovviamente. Interessante, sull'account italiano però, nello specifico. Curioso. Sì, io ho provato ovviamente perché ho solo l'account italiano, sarebbe da provare con altri account, però su quello italiano non è disponibile. Roberto, tu ne sapevi qualcosa di questa cosa? Tu devi essere informato, Roberto. Sono chiaramente informato. Che poi diciamo, sia la versione Android che la versione iOS fondamentalmente era la versione emulata, se non sbaglio addirittura proprio dell'Amiga, che usava addirittura in maniera secondo me obbrobriosa un sistema di puntamento, perché non era tipo il puntamento attraverso tap, quindi il mappaggio 1-1 dove tappi e dove il cursore si trova, no? Invece diciamo usava la superficie del touchscreen come una specie di trackpad, di touchpad per muovere il cursore. Quindi immagino com'era giocabile. Immagino, sì. Immagino. Roberto? Allora, sì, allora, dal punto di vista delle informazioni che posso darvi, me ne lascio due sul palmo della mano, così giusto per... Così, con nonchalance, proprio. Sì. Allora, innanzitutto la pagina del gioco, versione iOS, non funziona, quindi potete capire. Esatto. Già qualche suggerimento che qualcosa non funziona. Quello che ha detto Giuseppe adesso, non è che c'hai... No, lui diceva Sì, diceva a conferma di questo, infatti non funziona neanche il link dal sito CinemaWare. Esatto. Poi aggiungo che fino a poco tempo fa era possibile scaricare la versione originale dal sito in maniera gratuita. Sì. Adesso bisogna cercare un po' come abbandono. No, proprio dal sito ufficiale, viene rilasciata come freeware. CinemaWare in qualche modo rilasciava i giochi. Adesso sembrerebbe che hanno tolto questa pagina, sto cercando di essere la recupereranno prima o poi, vediamo, perché non era l'unico titolo diciamo liberamente scaricabile. Poi sempre per completezza, prima di arrivare alle ultime versioni mobile, citerei un altro titolo del 2003 che si chiama Robin Hood Defender of the Crown, di cui appunto lo sviluppo è stato seguito dalla CinemaWare seconda vita. quindi quando sta un po' a recuperare. Questo, se mi ricordo bene, uscì per PC, PlayStation 2, prima Xbox e PlayStation, esatto, 2, esatto. PC, diciamo che è un remake sostanzialmente fedele, sostanzialmente, chiaramente, diciamo, è in grosso modo la natura del titolo a turni, quindi conquista il territorio e il castello con i vari minigame. Sì. Qui però il protagonista è Robin Hood, come si vince dal titolo. Mm-hmm. Diciamo che la zosseria, insomma. No, è un caruccio, nel senso, niente di eccezionale, ma sufficiente, ecco, mettiamola così. No. Diciamo che non arrivava ad eguagliare o superare il titolo originale. Chiaro, no? Anche perché il discorso cinematografico declinato poi su PlayStation 2 Xbox, sì, va a morire, nel senso che comunque non ha più senso di esistere, sì, in questo contesto e in questa tipologia di gameplay. Però era giusto citarlo. Sì. E poi appunto si arriva alle versioni mobile, e vi dico che SimaWare fino a poco tempo fa diceva di poter portare il suo intero catalogo su dispositivi mobile. La cosa sembra effettivamente essersi un attimo bloccata. Io personalmente li ho contattati per capire, per altri discorsi, capire un po' come stesse funzionando il discorso, e t'hanno risposto sul corso voi? No, ma fino a ottobre rispondevano, poi da lì. No, però il sito l'hanno rinnovato. Io dall'ultima volta che ci sono andato, lo sto guardando adesso, il sito l'hanno comunque. Ma no, l'ultima volta che sono andato hai 18 anni. Penso, no, vabbè, già stavo l'altro anno. No, dai. Essenzialmente così da anni, quindi. No, però, per me l'hanno rinnovato. Poi sei a caccarella anche te. Vabbè. E basta, sostanzialmente sono queste le versioni di cui vale la pena parlare. L'ultima è quella in ordine di tempo di Android, per Android. Posso aggiungere però solo, diciamo, un'ultima piccola perla, così, perché è più o meno correlata sempre a Defender of the Crown. È che così in un titolo successivo di pochi anni, sempre di SimaWare, che era The Three Stooges, sì, tre marmittoni, praticamente c'era, se vi ricordate, l'introduzione che prendeva in giro Defender of the Crown, perché quando partiva sembrava che cominciasse proprio con la sigla e con la prima schermata di Defender of the Crown, quando poi in realtà poi subito dopo arrivavano, insomma, i tre marmittoni del titolo, il trio comico che, insomma, diceva che abbiamo sbagliato gioco, una cosa del genere, e poi cambiava e diventava effettivamente quell'altro gioco. Però, insomma, questa cosa mi colpì molto. Anche The King of Chicago è disponibile per Android, attenzione. Sì. Vabbè, comunque è un po' misteriosa sta cosa della SimaWare, perché evidentemente ci deve essere qualcosa di mezzo che gli espl- o questi qua un giorno sono svegliati, non si sa chi, hanno detto noi siamo la SimaWare e qualcuno ha detto che cazzo state a dire, oppure c'è qualcosa di strano, sì, in effetti è un po' curioso, insomma. Vabbè, io direi che abbiamo, prima di fare un finale, quindi magari anche con i nostri ricordi, se vogliamo, le nostre considerazioni, robe del genere, facciamo l'ultimo inserto che abbiamo per questa puntata, che è un inserto un po' atipico, nel senso che ci riporta alla puntata precedente, quella per ZX Spectrum, che tra l'altro ha avuto anche un discreto successo, e questo un discreto successo, un gran successo, ma ce lo aspettavamo, perché in realtà siamo entrati a parlare di macchine che guai a chi le tocca. Però purtroppo ci è sfuggito il kit in Google, e nonostante che erano state indicate nelle note dell'episodio ovviamente i link relativi a quello che il distruggitore di cui ha parlato, niente, ve lo piazziamo qua, perché poi fare un kit in Google su Defender of the Ground è un po' limitante, insomma, nel senso, non è uno può andare a cercare qualche easter egg o roba del genere, ma non so neanche se erano contemplate cose del genere. Quindi ci ascoltiamo il distruggitore e poi ritorniamo per la parte finale della trasmissione. Get in Google. Oh, c'è nessuno? Dai, lo so che stai qua dentro, che poi prima o poi sta storia del frigorifero la dobbiamo finire, perché entra sempre dentro Asto. Io mi tanto entro, fa freddo però qua dentro, cioè basta, io non ci vengo più. Ma che è sto coso? C'è nessuno? Qui non c'è nessun distruggitore, c'è solo Zur. Sta buono, sempre a rompere le scale quando entra qualcheduno. Simone, non gli è da retta, questa che cosa? Zur è coinquilino mio, sta sempre fuori tra una possessione e l'altra, però quel fine settimana magari lo passa qui. Vabbè, però ti è alla bada, cioè. Ma lui sta tranquillo. No, tranquillo un par de cazzi, ma cioè. Perché sta ringhiava, vabbè, ma lui ringhia, ma è così, non ha mai posseduto nessuno. Ma che non pure, dai, cioè. Beh, un po' di zolfo mi piace postare. Ho capito, però, cioè, sì. Boh, già io. Metti dall'angoletto. Pure all'angoletto, secondo me. Oltre che devo. Ma no, tu, Simo, lui si deve mettere all'angoletto. A te t'ho preparato. Zurro, si mette laggiù, bravo. A te t'ho preparato. Sta seggetta qui. Mi sta a guardare, però. E te devi guardare, certo. Il lavoro su, lui è il cane demoniaco da guarda. Ti ho preparato una bella seggiolina fatta di buste di pisellini finto scongelati. Bello, comodo, comodissimo, certo. Proprio, c'è proprio il puff, capito? Ti ci butti sopra, fanno i bozzi nel coci. Oh, siamo piccolissime, però. Oh, perfetto. Come mai da ste parti? Che è successo? No, è la solita prassi che poi penso a sto punto, insomma, con sta storia del frigorifero azzurro lì, insomma, penso che dovremmo abolire prima o poi. E che dovremmo fare? Okay, cioè, questo è dove abitiamo noi, ho capito, noi, cioè, una volta non ci abitavi dentro il frigorifero. Una volta non ci abitavo, c'avevo un attico a New York, adesso non c'ho più, è scoppiato. Sì, comunque abbiamo parlato dello Spectrum, quindi. Ah, dello Spectrum. Sì. Pensa un po', che bello lo Spectrum. Quello non sai che quello là di Sir Clive Braccino Corto. Ci ho mai giocato. Ho capito, non ci ho mai giocato. Vabbè, comunque. Però esisteva, non è perché tu non ci hai giocato. Volevi sapere vedere qualche sentita. Sì. Vabbè, guarda, io ti ho preparato. Ha buttato un link giusto da mettere, insomma. Io ti ho preparato due o tre link. Che sono simpatici, cioè bellissimi. Proprio. Guarda, mi sono divertito così tanto a cercarli su per internet. Che è bellissimo. Super internet. Lo sapevi che. Dello ZX ci hanno fatto diversi giochi nuovi adattati appunto allo ZX. Eh no? Sì, mi pare che l'altra volta, per esempio, avevamo visto che era Doom. Era fatto pure bene. Ma in realtà ci hanno fatto anche Wolfenstein. È questo qua che stiamo vedendo in questo momento. Sì, quelle lì, infatti, non sono delle macchioline che sono spazio. Mamma mia, che sosse, è quasi brutto come quello Doom del 64. Però è bianco e nero questo. Immagina se ci fosse stato il colore. Colore che si faceva macello perché col color clash sarebbe. Però devo dire che si riconosce. Che è Doom, sì, beh, certo. Infatti Wolfenstein Wolfenstein però si riconosce, insomma. Vabbè, comunque in ogni caso, dai, roba da farvi sanguina all'occhio. Ma sì, ma oddio, ho visto cose che fanno sanguina all'occhio di più, cioè. Sei sicuro che non ci sia qualcosa che ti faccia sanguina all'occhio peggio? Guarda, che forse dopo alla fine sa, fra un pochetto, guarda, sì, può essere pure, però allora, insomma, io adesso aspetta che non trovo il mouse, sta sotto le fettine panate zurr, e che teringhi, non mi devi spostare le cose quando vieni qua, scusa, secondo. Allora, no, c'è quest'altro link, ecco questo qui, aspetta che sto a cercare, dove cacchio è finito il link, questo è perché c'è l'ombru. No, c'ho un link che magari quello però ve lo vedete perché non mi va a commentarlo. No, per troppa roba. Dove ci sono i migliori giochi. Io mi sono fermato sul 2012, però probabilmente magari c'è anche quello del 2013. I migliori giochi Homebrew che sono usciti secondo la personalissima classifica di questo tizio, sì, che potete anche biastimare online. Tra cui c'è anche un bellissimo gioco di Ashi. C'è un gioco spaziale bellissimo dove c'è un tizio fatto di cancelletti e freccette che praticamente devi evitare delle specie di granchi che gli tirano addosso è fighissimo, insomma, è la fantasia al potere, insomma, sempre fantasia al potere, soprattutto e tanto bellissimo c'è quella pure della bambina che va dentro una magione infestata al buio con tutti queste luci, però ogni tanto arriva il fantasma e sarà come se la ciuccia, sì, e poi ci stanno i flash che poi è un po' come gli Haunted Game che ci stanno adesso, insomma. Haunted Game, sì. Più o meno, insomma. Azzurro che è Haunted Game. No, è boh, ha detto niente, sbava pure, cazzo, cioè. Voleva dire Haunted Games, ma è uguale, su, tranquillo. No, schifo, guarda. Poi c'è in questa classifica degli Homebrew che insomma, diciamo, fondamentalmente è una bella classifica dei giochi di merda, c'è questo giochino del tizio che deve pulire le piste, esatto, che gli arrivano i tassi a un certo punto e deve utilizzare le onde cinetiche per distruggerli, pulisce le piste di atterraggio, ci sono i guardoni, arrivano i guardoni e li devi espellere con dei poteri paranormali, insensato, diciamo, però insomma c'è io direi, insomma, anche questo link ve lo guardate, perché sì, se ve lo commentate tra di voi, commentatevelo malamente, chiaramente, cioè, Zur si è pisciato addosso, che schifo vabbè, ti capisco, insomma, dopo sto video poi che allora. Non so, possiamo vedere qualche altra cosa, non ma so. Sì, diciamo. Guarda, c'è questa che è una simpatica, voi a casa lo potete fare, sì, benissimo, che è una cosa comoda, come utilizzare lo Spectrum per mandare le mail, c'è proprio un listato dei comandi da usare, beh, è semplicissimo, vero Zur? Sì, ecco, sì, ecco, ok, vabbè, sì, tranquilla. È una cosa semplicissima. Voi fate due o tre comandi semplicissimi, semplici. 50 righe di codice praticamente. Esatto, no? Ma è semplicissimo. Voi digitate quello che è e voi potete mandarci anche le mail. Il vostro. Però diciamo che abbiamo scoperto guardando questa cosa che c'è un sistema operativo. Una sì, il trick e track, come si chiama? Il TDOS, mi sembra. O T-Rex, TR-DOS. TR-DOS, tra l'altro, fatto tipo sì, in Russia, insomma. Chissà cosa sarà mai. Insomma, se vi dovesse scappare, che dovete mandare una mail veloce, cioè proprio andate di corsa. Tranquillamente, insomma. Potete farlo tranquillamente senza farlo con. Esatto, cioè, è una cosa molto comoda. Vabbè, io direi di passare. Fatta. Vi ricordate quel gioco dei mattoncini, coso, Tetris, no? Che era molto, molto semplice. Quello esatto. Esatto. Non è questo, però. Però potrebbe anche essere. Questo, però. Però so, è bello, c'è sta strana 3-5 in 1 mega, in un mega game. Che non si sa che cosa sia, però in realtà sono dei quadrati che scendono, ma non si sa. Io sono. È una sorta di variante. Comunque questo è il Tetris. Ah sì, simpatico, sì. No, questo non è proprio un Tetris. E questo è il Tetris. Però poi c'è questo livello bonus che non so perché ce l'hanno messo. Sì, devi riempire. Però vabbè, si può giocare su Tetris anche su ZX Spectrum o emulatore. Questo è lo Snake, per esempio. Sì, e ci hanno buttato dentro un po' di tutto dentro sto Tetris. Però voi immaginatevi se con lo ZX avessero fatto il Tetris, che era semplice da programmare, tutto sommato, era semplice. Bastava un colore, due. Ma infatti del Tetris fondamentalmente è l'intuizione che c'è stata tragenelata. Come, sì, certo, come per esempio delle pecore demoniache, chissà, forse ne parleremo delle pecore demoniache, delle capre demoniache. Sì, sì, però quella secondo me non è questo il programma. Però cioè, anche abbiamo trovato, io sai che ho scovato? Un tizio che ha messo un filmato di un Quake. Ma io non so se sia Quake. Insomma, non è perché qui vedo delle cose, gente con i tridenti in mano. Ma cosa? È un simil Quake. E di tutti i giochi che abbiamo visto, questo veramente il vince il premio del gioco più brutto. Però cioè, il mostro è bello, molto bello, ma non si capisce come si vince. Questo sta cercando di sparare mentre compare la scritta bastardo e poi muore. E poi muore. È bellissimo. Ma lo fa vedere 18 volte di seguito? Sì, cioè, sì, come sì, quei video, che ne so, un'ora di bestemmie, un'ora di. Ma secondo me gli manca l'ottimizzazione a questo gioco perché, vabbè, innanzitutto. Ma forse perché proprio era multipiattaforma. I muri praticamente sono dei pannelli colorati che cambiano colore in continuazione. Che a prescindere da come stai messo, praticamente hanno sempre la stessa inclinazione. Quindi in realtà non è un vero 3D come gli altri motori, insomma. Sì, è un po' come avere diciamo la visione di un pipistrello. Vabbè, insomma, abbiamo visto che queste macchine sanno fare di meglio anche di questo gioco qui. Ma poi arriva peggio, però, vedi, questo mostro che tu gli spari e non lo prendi, e lui si avvicina e ti succhia la vita. Esatto. Sarà anche dovuto al fatto che c'hai la mano gialla? C'è la mano gialla, esatto, e con le unghie blu, però. Blu è una pistola di non meglio precisata natura, insomma. Però. Insomma, se volete anche divertirvi con l'ennesima versione di Mario Bros, potete tranquillamente utilizzare. Ma fai anche i rutti comunque, tranquillo. No, posso. Questo è cinese, perché sai com'è? Il cinese dove mangi quando te pare, è importante che ti alzi alla fine prima di tutti, ti scusi e te ne vai senza pagare. Questa è la cosa importante, perché questa è la cosa che funziona. Ed è bellissima questa versione che ho trovato di Mario Bros. Vedete che sembra quasi presa da un Game Boy, però. Forse è sì, un Game Boy. No, è lo Spectrum che però voglio dire fa le funzioni del Game Boy, in quanto ovviamente lo è monocromatico per evitare il problema del color clash. Dice perché eliminando il color si elimina anche il clash sì, esatto. È molto molto interessante. Però graficamente non è manco male. No, è bello, bello. Vibra da fermo, ma è bello, insomma. Quindi è una cosa molto, molto vibra simpatica. Magari vibra il video perché non è, che ne so. No. Ma a proposito di cose che vibrano, cose che vibrano. C'è un bellissimo filmato che non esce da YouPorn, non era quella, no, è quest'altra, questo. Quella no, non è praticamente questo. No, che cosa sta, ma, no, ma che no, cosa no, fa? Cioè, quella è Amateur, non è Amateur, no, togli. No, questo è Match, MILF, ecco là, no, ma secondo me stai andando proprio, ecco, no, neanche. Questo qui è Japanese, non è Japanese, no, non c'è, eccolo, l'abbiamo trovato. Forse abbiamo trovato Your Big Nonce, il Sex Simulator dello ZX Spectrum, dice che del 1988, scusate, ma fatto da Dino. Però francamente secondo me è un gruppo sì, di maniaco, pseudonimo, esatto. E comunque Your Mission is very weird. La vostra missione è molto strana, strana. Sì. Perché? Perché ti devi trombare una, ma la cosa bellissima sono le schermate di gioco, che è questa, che è una sola. Esatto. Cioè, praticamente c'è la schermata del menu e una schermata gialla dove c'è questa scena porno. Che tra l'altro è censurata, perché vabbè, sennò poi i bambini da casa lo fanno. No, penso quindi... censurata su YouTube. Insomma. Certo, voglia a me. Non credo che lo ZX Spectrum avesse le sfumature. No, esatto. Devono fare proprio una vera parte. Però è bellissimo, eh? Bellissimo, proprio una cosa. Il gioco viene completato in 30 secondi, quindi proprio. Si riesce neanche bene. L'evoluzione precoce, esatto. A GoGo. Quindi non anche che cosa devi fare. Infatti, probabilmente devi cliccare. Allora abbiamo continuato a vedere i video perché abbiamo detto, vabbè, ci saranno altre schermate. No, c'è sempre la stessa. Però lo finisce sempre prima, quindi è arrivato anche a 10 secondi. Però se vedo di, insomma, noi ragazzini dell'epoca, visto e considerato che queste erano già grafiche super avveniristiche, vedere una cosa del genere era già super ultra. E lì Zaganella si sprecava. Più ci andai avanti una settimana memorizzando questa cosa, esatto. E vabbè, e poi, beh, bellissimo. Poi una volta sarebbe bello fare una puntata sui giochi sessuali. Ho scoperto un mondo, perché come nella puntata dei simulatori di volo abbiamo scoperto un mondo, anche in questo caso potremmo fare una puntata sui simulatori di sesso, però non è molto archeologia quella, forse è più dietrologia, è più videoludica, più videoludica. Esatto. Beh, vabbè, salutiamo. Ma sì, dai, vi salutiamo. Anche Morgan, che oggi mi ha scritto in chat su Facebook: sarebbe bello che tu, il distruggitore, faceste una puntata da soli parlando di un gioco. Sai che esce fuori, ma di uno solo, però, uno qualsiasi. Solo un gioco, sì. Magari puntate short, chissà. Ma potrebbe anche fare una cosa: votate il vostro gioco di cui parlare. Cioè, voi ci dite il gioco e noi lo parliamo. Che lo abbiamo giocato o meno. Allora poi facciamo una cosa: abbia giocato meno. Facciamo questa prossima qui. Se gli utenti ci scrivono e ci chiedono di parlare di 3 o 4 giochi brutti della storia del videogioco, noi per gli short che faremo quest'estate, faremo io e Marco, faremo questa cosa qui. Ciao a tutti. Ciao, io vi saluto, ricordo la campagna. Saluta Bava là. Aspetta un attimo, ricordo la. Ma non c'entra niente. La campagna Carcer Cooper sta su di per me, ma è uguale. La campagna Carcer Cooper per il mio computer nuovo. Insomma, quindi donate tante cose. Basta. E vabbè, adesso però. Carcer Cooper. No, che Carcer Cooper? Adesso ci facciamo una bella pizza, che dice? Resti qui a mangiare? No, tu scorbava lì, lascia stare. Me ne vado. Sei sicuro? Ma si puzza poi. Sei sicuro? C'è rimana delle scorreggia, delle cose. Zurre, senti, una cortesia, no, ti metti davanti alla porta? No, grazie, Zurre, grazie, bravo, bravo. Che guarda, dicevi? Che ce deve essere il sistema, io come spacco, la vuoi la pizza? Io spacco tutto. Perfetto, grazie insomma al distruggitore, finalmente insomma, poi questa cosa del frigorifero prima o poi avrà ad finire, perché insomma non si può fare, non si può fare. Poi io non è che sono primo ragazzino, non so, qui c'è una certa. Ok, facciamo un giro dei nostri. Il giro dei ricordi, bello, sta cosa proprio da caramba, che sorpresa. Partiamo da Giuseppe, magari qualche sensazione, qualcosa che ti ha riportato anche il solo pensiero a Defender of the Ground, che a me veramente mi ricorda gli odori dell'epoca proprio. Cioè, quindi. A me, diciamo, ricorda proprio il periodo con cui effettivamente ho cominciato ad avere il primo computer, perché io, sebbene giocavo col 64 di mio padre, però era il computer di mio padre. Per me il mio primo computer è stato l'Amiga, e come avevo già detto prima, è stato nel primo batch di giochi che mio padre mi portò, ovviamente tutti rigorosamente copiati dal suo collega amico, c'era Menace, c'era Pac-Mania, c'era Impossible Mission 2, e poi c'era questo fantastico gioco in ben 2 floppy che era Defender of the Crown. Per me, diciamo, proprio coincise con l'inizio del periodo Amiga, e quando, diciamo, è un gioco che vuoi anche, appunto, perché il primo che finì, che rimarrà sempre, appunto, iconico per me dell'era Commodore Amiga. E poi, senza dire che, se volessi trarre una conclusione col senno di poi, no? E alla fin fine i giochi CinemaWare e anche quindi Defender of the Crown sono stati comunque dei prodotti che fondamentalmente hanno aperto la strada a quelle, appunto, produzioni che sono interessate alla creazione di esperienze interattive di natura cinematografica, una tendenza che di fatto si è andata via diffondendo fino, appunto, a diventare oggigiorno predominante, no? Sono assolutamente d'accordo. Vabbè, io intervengo un attimo su questo, proprio perché in realtà, come avevo detto proprio già inizio trasmissione, il cinema, cioè pure da bambino il cinema, ma proprio la visualizzazione, il concetto di narrazione visiva, roba del genere, è stato sempre un mio pallino proprio personale. Sì. Legato al videogioco per me era sempre stato un sogno, e sono due i giochi che mi hanno portato alla luce questa, il fatto che c'era l'opportunità, la possibilità di farlo. Uno è stato Zack McCracken, e l'altro è stato ovviamente Defender of the Crown, poi ovviamente tutta un'altra serie di infiniti giochi, insomma, che hanno portato, insomma, anche loro dal loro punto di vista, ovviamente hanno portato lo svolgimento di questo tipo di discorso, insomma. Però ci tenevo, magari perché sono stati due giochi, e questo in particolare, Defender of the Crown, insomma, dei giochi ai quali sono stato veramente affezionato, e mi fa veramente piacere comunque ricordarlo, e soprattutto mi fa veramente piacere chiudere poi questa stagione con questo gioco che per me è stato importante proprio emotivamente, me lo ricordo proprio con grande piacere. Mi dispiace il fatto che Roberto non possa dire la stessa cosa, insomma, perché sappiamo che lui, essendo un bambino, in realtà poi non credo che lo abbia giocato sull'Amiga allora, insomma. Roberto, purtroppo mi hai scoperto, quindi dovrò alzare bandiera bianca. No, ti smentisco in parte, nel senso che l'ho giocato su Amiga, non chiaramente all'epoca dell'uscita, circa una decina di anni dopo, quindi sicuramente non ha avuto per me lo stesso impatto. Però devo dire che nonostante, diciamo, il recupero tardivo, rimasi molto colpito dall'approccio del gioco, sia dal punto di vista, diciamo, più momento, più volte cinematografico, quindi un po' questo diverso modo di porsi che di CinemaWare, che era immediatamente riconoscibile in tutti i suoi titoli che ho apprezzato di più, tipo questo, di meno come Tre Marmittoni, che ho odiato profondamente. Veramente una cosa orribilante, non riuscivo a capire cosa dovevo fare mentre ero scemo. E che poi, da parentesi, titoli, cioè non solo questo, perché poi comunque ha dato anche il là ad altre software house che si sono cimentate comunque in questa tipologia. Bravissimo. Di giochi tra virgolette eventi, tanto per tirarne uno che a me pure è rimasto, non so se voi ve lo ricordate, Fiendish Freddy, che era quello del circo, che dovevi fare, diciamo, una serie di, era un gioco circense dove dovevi fare una serie di acrobazie, e meglio, diciamo, questi giochi da circo riuscivi a fare, più soldi guadagnavi, e c'aveva appunto tutta questa storia dietro, che dovevi salvare il circo accumulando una certa quantità di soldi. Sì, ad esempio Nord e Sud. Esatto, Nord e Sud, per esempio. O anche, c'erano anche altri giochi che, per esempio, come Giovanna d'Arco, eccetera, che poi fiutarono, diciamo, il successo sulla scia di Defender of the Ground, e quindi proponevano la loro versione. Oppure anche Lord of the Rising Sun. Non so se te lo ricordo. Ah, come no? Quello, lo strategico, quello ambientato nel Giappone. Sempre CinemaWare, poi. Sì, infatti, quindi diciamo, era ovviamente per me, poi CinemaWare in particolare, io ho tre cari giochi proprio di CinemaWare, per me sono Defender of the Crown, It Came from the Desert, assieme all'espansione a Enzed, e Rocket Ranger. No, dai. Io sono in particolare affezionato a questi tre, proprio per solo me. Perché il tuo compleanno ti includiamo ancora in questo episodio. Sì, giusto per chiudere un po' anche il mio intervento, diciamo che sì, ho apprezzato, diciamo, per la prima volta questa tipologia di gioco, che poi ho trovato anche in altre pubblicazioni, appunto Nord e Sud, sì, Centurion, mi ricordo, tutti, sì, giochi che appunto univano strategia a una parte arcade. In qualche modo fu un po' il mio battesimo per questo tipo di genere, quindi io ricordo con molto affetto come gioco. E poi anche il grado di difficoltà, adesso che sì, effettivamente un bambino di quinta elementare poteva arrivare in fondo, però era in grado di darti un certo senso di soddisfazione quando appunto riuscì a portare avanti la conquista del territorio inglese. Quindi, ma sì, ma probabilmente... allora secondo me non ci pensavi neanche il fatto se era facile o difficile, cioè, il fatto di finirlo era una figata e sì, basta. O anche, non so se vi ricordate, anche un altro gioco particolare con queste cose evento e pure strategia, che era Lost Patrol. No, questo non molto, no, non vi state. Quello della pattuglia dispersa in Vietnam, che devi raggiungere una certa postazione stando attento appunto alle tue al morale, alla pancia, no, alla fame delle truppe. E poi potevi avere tipo alcune fasi in cui tipo i Viet Cong ti facevano la guata, e dovevi pure, in quel caso partivano delle fasi arcade. andate tutti a recuperare, che poi potrebbero essere spunti. Sì, sì, ma altri, tanto altre puntate. Dai, e dai, insomma, tanto usciranno fuori tutte queste cose. Ok, e te, Roberto, come finisci? E basta, essenzialmente, quindi posso dire che pure non recuperato in maniera tardiva, è un gioco che vale la pena, anche solo dal punto di vista storico, considerare. E il fatto che sia comunque disponibile sulla fantomatica versione iOS o su Android potrebbe essere un buon viatico per fare un viaggio nel passato, quindi questo ve lo consiglio. Soprattutto nell'attesa che un domani, un po' come la Rabba Fenice, Sainem risorga di nuovo, no? Ma sai, a questa cosa fa sempre un po' paura. La Cinemaware la associo alla Commodore, cioè nel senso che ogni tanto vedi che esce fuori il marchio, nuova Commodore, usciamo adesso, facciamo uscire il computer Commodore, qua spacchiamo tutto, roba, e poi spariscono. Mm-hmm. Ma loro stanno lavorando comunque. Sto lavorando sul remake di Wings, che ha passato il Kickstarter e quindi non lo porterà a compimento almeno quello. No, invece io sapevo che non l'aveva passato il Kickstarter. No, sì, l'ha passato. 91.000 erotti su 85.000 previsti. Abbiamo capito, sai che cazzo ci fanno 91.000 euro. Vabbè, a questo punto direi che possiamo andare tranquillamente su quel bar, su Mille Island. Benissimo, ci beviamo quest'ultimo grog di stagione, partendo ovviamente prima dai nostri saluti e dei nostri auguri, insomma, per le vacanze che diciamo sono meritate, perché cazzo, allora 13 puntate abbiamo fatto, quindi vuol dire che abbiamo fatto anche più di una puntata al mese quest'anno, siamo stati bravissimi. Allora, abbiamo sul sito di archeologiavideoludica.com o archeologiavideoludica.it, vi ricordo non esiste più il punto net per questioni che abbiamo spiegato all'altra puntata, tra l'altro non abbiamo dato i riferimenti all'inizio della puntata, ma va bene, non fa niente, tanto oramai stavo proprio in vacanza. E, Dio Max ci ha scritto una puntata veramente puntata toccante, peccato per il Pizzi, cioè nel senso che, come sapete, insomma, io ho dovuto fare una questione di raccordo. Poi c'è Andrea M che ci dice questa non me la perdo, poi è sparito, non abbiamo più saputo assolutamente niente di che cosa sia successo, ma Roberto, dovremmo avere dei commenti dalla pagina Facebook, anche un certo numero di commenti. Sì, che tu amabilmente mi stai passando, ti ho incollato ovviamente sul tuo Skype. Esatto, che non trovo più, però non preoccuparti che nel frattempo qualcosa verrà fuori. Ok, quindi parto con Massimo Borgo Molta. Pronto? Pronto? Sì, dai, ok. Sta aspettando noi, ritmo cazzarola. Partiamo con Massimo Borgo Molta, che ci dice: abbiamo competenze e ricordi personali, apprezza particolarmente la mia parte, e dice che il podcast rispetto alle prime puntate è riconoscibile. State affinando una trasmissione spettacolare, ci invita appunto ad andare avanti così, e quindi lo ringraziamo. E sì, perché abbiamo deciso, insomma, di prendere una certa tendenza, poi ancora la stiamo raffinando, chiaramente, perché i tempi sono una cosa importante, però sono contento, insomma, che piaccia questa nuova questo nuovo embrione, diciamo, che diventerà poi la nuova trasmissione della prossima stagione. Diciamo che il giro di vita è stato quando ho preso un po' mano il podcast, quindi sì, no, quello è che... quando stava proprio nel baratro, poi dopo l'ho ripreso io. Poi c'è Andrea De Girardis, una nostra vecchia conoscenza, che quindi salutiamo con affetto. Dice che era una puntata che un po' aspettava quello Spectrum, perché non ho ancora sentito questa, chiaramente. E non si era mai, diceva appunto, non si è mai accorto del color clash. Quindi... Si era mai accorto perché era ciecato da bambino. Quindi anche ti vogliamo bene, quindi ci stiamo offendendo personalmente, ma teniamo incontro in questo tuo deficienza fisica. Beh, anche io comunque mi sono accorto comunque dopo qualche giorno dei colori dell'Amiga, perché all'inizio lo giocavo col modulatore mezzo scassato, che faceva delle cose in bianco e nero. Aspetta, color flash. Insomma, non notarlo, voglio dire, un po'. Poi non vogliamo effettivamente offenderti per il fatto che sei cieco, insomma, però ti vogliamo bene. Questa cosa sappi che ogni volta che non ti accorci del color clash, un programmatore Amiga muore, quindi muore, no? Tu hai uno Spectrum pure, poi. Ok, qui c'è appunto lo Spectrum, era un computer povero, ma era un povero ricco, quindi c'ha una lotta di classe anche un po'. politica. Una puntata ovviamente non basta, infatti ci torneremo l'anno prossimo, possiamo anticipare che l'intera stagione sarà dedicata allo Spectrum e alla cecità. È la cecità. Poi dice che avrà giocato un migliaio di titoli con i nomi originali, ne ricordo pochi per ovvi motivi, quindi anche in memoria. Sta arrivando la finanza anche a casa tua, insomma. Esatto, non preoccuparti. Comunque le città 2, Caro e The Great Escape, quindi due titoli veramente importanti. Mai sentito, no? Però ti vogliamo. E poi aspetta, no, no, dice non, può, non, e non parlare delle ore passate con la cassettina demo inclusa nello GTX Spectrum 48K Plus o Plus, che dir si voglia, che era probabilmente l'unica cassetta originale che aveva tutto il comparto. Quindi beh, grazie Andrea, ti vogliamo bene e ti ricorderemo sempre nelle prossime puntate e ti porteremo le arance anche. E chiudiamo con Ivan Spagnoli, che dice appunto una bellissima puntata, anche se oltre a sentirsi vecchio del 71, quindi Pizzi praticamente ha già piede nella fossa. Esatto. Ma questo lo sapeva già, No, tranquillo, adesso tiriamo la spintarella e siamo a posto. E si accorge però, e questo è un tema che vorrei aprire, che si è perso molte cose. Quindi infatti apro un parentesi velocissimo, nel senso che una delle cose che apprezzo di più nel creare archeologia videoludica con i miei soci è appunto la possibilità di andare a scoprire magari cose che di cui non avevamo conoscenza, ma che in qualche modo hanno segnato il nostro passato, sia magari direttamente che indirettamente. Quindi ti ringraziamo, che è un commento veramente sentito, e soprattutto dobbiamo recuperare il fatto di aver offeso Andrea poc'anzi. E infine chiede di parlare un giorno del Commodore 16, e questo sarà magari uno speciale, un qualcosa potremmo parlarne, se non noi magari la sorella dell'archeologia informatica. Adesso vediamo. Beh, del Commodore 16 sì, probabilmente più su archeologia informatica, perché noi l'abbiamo accennato in realtà, però sì, essendo un computer di transito tra il VIC-20 e il Commodore 64, in effetti meriterebbe tecnicamente un po' d'attenzione, perché poi era un particolare, non era male come macchinetta, insomma. Ne parleremo, poi ti faremo sapere dove, quando e perché lo faremo. Detto questo, io penso che, non so se su All Games Italia c'erano, ma tanto non sei andato a controllare, quindi ringraziamo comunque anche loro, perché tanto so che ci vogliono bene, quindi vogliono prescindere. Allora io faccio intanto sempre rinnovo gli auguri di compleanno a Giuseppe, che poi ci vediamo. Grazie. Giovedì andiamo a mangiare la bissa. No, grazie dell'invito, come al solito. Allora, tu c'hai la moglie che sta lì aspettando, che sta per uscire, quindi insomma non si può, no? Dove vai? ringrazio gli auguri, buon compleanno. Faccio poi un saluto per l'estate, insomma quest'estate che suppongo sarà piena di Sicilia e di giochi, insomma penso te ne andrai giù, insomma, a passare un po' di vacanze. Sì, sì, sì. Un sì, sì. Convinto proprio. No, dico era abbastanza. Giochi perché in realtà me ne porterò appresso almeno di quelli portatili, anche perché così mi porto poi avanti col lavoro per l'altro podcast di esatto, pieno, no? Pornocast. Faccio il parco di dove. Esatto. E poi ovviamente di Sicilia, perché posso riabbracciare i miei. Passare un po' di tempo e soprattutto andare su spiagge abbastanza sicure, no? Non come queste terribili del litorale romano, che sono tutte a rischio inquinamento. Ma sai, ma anche senza il rischio, comunque. Sì, sì. E salutiamo anche il nostro carissimo amico Roberto, che insomma, come voi non lo sapete, ma Roberto sta per diventare bipadre. Per una questione dei giorni, insomma, quindi ci sarebbe piaciuto festeggiarlo insieme in trasmissione, ma vabbè, lo faremo insomma in altre maniere. Sentiremo i pannolini, non c'è problema. Lo faremo in altre maniere, quindi ciao Roberto. E ciao a tutti, quindi vi ringrazio che mi siete vicini in questo evento. Nel prossimo episodio sentirete anche noi pianti, oltre a quelli di Pietro, quindi andiamo a variare un po' l'audio in sottofondo. Esatto, lo mettiamo stereo, una da una parte e una dall'altra. Anche se ormai Pietro è diventato grandicello, insomma, dietro a nome. Sì, ormai Pietro va all'università, quindi potete capire che abbiamo iniziato a chirurgia videoludica anni fa e stiamo evolvendo. Esatto. E basta, quindi va bene. Basta, posso salutarvi, voglio bene. Ciao Paolo, che quello è sempre un amico nostro, esatto. Esatto, ciao Andrea. Allora, prima di tutto ringrazio tutto lo staff di Italian Podcast Network, che veramente durante quest'anno ha dato veramente la schiuma, diciamolo, perché comunque abbiamo veramente fatto grandi cose, abbiamo lavorato molto ed è stata forse la stagione più intensa e anche più significativa dal punto di vista della rinascita, diciamo, del ritorno, della risalita di tutto il network, anche grazie ai nuovi podcast che sono usciti, come proprio L'Occhio del Beholder, come Calavera Caffè, quindi tutta una serie di programmi che comunque hanno arricchito ulteriormente il prestigio. Non dimentichiamo che chiaramente Tech Radio, che ha un progetto ancora più grosso dietro, e il prossimo anno, insomma la prossima stagione, vedrete che sarà una cosa che tutti farete una cosa così. E ringraziamo ovviamente allgamesitalia.net, che oramai è diventato il nostro partner definitivo, insomma addirittura siamo tutti quanti vicini abbracciati nello stesso server e ci vogliamo tantissimo bene. Ringraziamo Simetranet, perché Simetra che ovviamente ci mette a disposizione appunto questo server e quindi è il nostro sponsor ideale, diciamo il padre putativo. Ringraziamo, chi altro dobbiamo ringraziare? Ringraziamo un po' tutti, insomma, perché di altre collaborazioni, insomma, poi dopo ne parleremo, insomma, nel prossimo futuro. Alcune cose andranno a concludere, altre ripartiranno e altre partiranno di nuove, come è giusto che sia, insomma, nel ciclo anche delle collaborazioni e soprattutto nel ciclo delle idee che abbiamo sempre. Detto questo, grazie a tutti ancora una volta, e soprattutto anche per le recensioni che ci state facendo sui vari canali di iTunes. Continuate a commentarci, continuate ad abbonarvi, ci vediamo al prossimo anno e iscriveteci soprattutto per sapere se avete poi dei suggerimenti, delle domande, qualcosa sulla quale vorreste, insomma, che noi approfondissimo ovviamente la nostra attenzione. Vi ricordo www.archeologiavideoludica.it o .com. Abbiamo spiegato che .net, insomma, siamo in guerra, non ancora legale, ma insomma siamo in guerra con un figlio di una mignotta, insomma, diciamolo, perché veramente non sozzone di quelli di prima categoria, però è anche colpa nostra. Videoludica è il nostro Twitter, ci trovate su Facebook e ci trovate anche su Google Plus come Archeologia Videoludica, e archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Detto questo, io vi saluto e vi voglio bene a tutti e arrivederci al prossimo anno. Ciao. Un'estate al mare e in realtà